24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti. Oscar Giannini. Buongiorno a tutti. Ti abbiamo messo la sigla, ecco, rimediamo subito. Sento un po' meglio. No, stai dicendo che fa schifo la mia sigla? No, sto dicendo che mi sento un po' meglio perché questo swing ci riporta l'atmosfera bellica. Rimetti lo swing, va. Potremmo pirouettare insieme. Sei proprio come uno. No, va bene, insomma, un duetto swing io e Oscar Giannino è un'immagine che stravolgerà l'alba quasi di molti italiani che ci stanno ascoltando. Mira, stamattina hai una voce rocca, cosa hai fatto? Che ho fatto. Vengo in motorino, fa freddo, che devo fare? Questo è. Allora, secondo Radio Day. Secondo Radio Day, la crisi non se n'è andata, quindi noi continuiamo con la nostra programmazione straordinaria. Beh, con questo dovremmo andare avanti allora. Un po'. Io ci provo sempre, così intanto. No, l'auspicio è che invece stiamo dando buone risposte, buone tesi, approfondimenti ai nostri ascoltatori, che ci perdoneranno perché si dovranno assolvere Giannino e Milan insieme. Anche oggi, ebbene sì. Allora, oggi avremo tra gli ospiti alle 8:30, devo dirlo, Attilio Befera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, starà con noi dalle 8:30 alle 9, cioè colui che è visto come l'emblema della riscossione dei tributi. La riscossione e del, diciamo, potenziamento di tutto ciò che banche dati, capacità, esatto, dello Stato di. Quindi Oscar, se devi dichiarare qualcosa, nel senso dichiarare qualcosa, hai Attilio Befera, di quello che devi dire. Ah, cioè devo dichiarare le mie. In tutti i sensi, in tutti i sensi. Mi arrendo, questa è la dichiarazione. E poi avremo l'amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni, dopo le 9. Insomma, tanti ospiti, ovviamente anche le vostre chiamate, ma iniziamo subito dai giornali, Oscar? Sì. Allora, intanto ti sottopongo il titolo del Sole 24 Ore, banche, la maxi asta BCE fa il pieno, questa è l'apertura, mentre l'apertura politica di tutti i giornali è sulla frase di Napolitano, nessuno strappo costituzionale, così apre il Corriere della Sera, mentre ti sottopongo una bella carrellata di titoli uguali, ma quando dico uguali è lo stesso titolo, Repubblica, Stampa, Il Messaggero, la democrazia non è sospesa. Vabbè, le parole del capo dello Stato. E poi, vabbè, ci sono anche altre aperture che magari vedremo. Sì, una cosa mi ha colpito che il Fatto Quotidiano, che è sempre un buon termometro, si rifugia nel calcio, perché vuol dire che non passa la formula per cui picchia Monti come Tremonti. Prende spunto dal calcio, il titolo è C'è chi dice no, hanno eletto a eroe, quello che ieri ho citato anch'io alla segna stampa, questo calciatore che si è rifiutato di comprare una partita, avvicinato... Però mette insieme anche il manager dell'ENAV che rifiutò le mazzette, il sindaco Vassallo che fu ucciso, no? Il sindaco. Cioè dei candidati di Pietristi sarebbero praticamente. Sì, alle prossime elezioni. L'Italia che non si piega alla corruzione. Però diciamo la verità, povero Angelo Vassallo. Solidarietà a Marco Travaglio, perché è costretto a fare fondi del tipo Severino sia Severa. Cioè, questo governo Monti non riesce a dare gli stessi spunti del progetto Severino sia Severa. Intanto, però, prima di andare in pubblicità e meteo, Oscar, ti voglio sottoporre le solite due notizie dalla casta. Allora, al Senato, al ristorante del Senato hanno aumentato i prezzi da qualche mese. Non c'è più la spigola a 2,50 euro, il branzino a 3 euro, il filetto a 5 euro. E quindi che succede? Siccome sono aumentati i prezzi, i senatori non pranzano più al Senato. Cioè adesso bisogna spendere 20 euro per un filetto. Allora sono andati, vanno fuori nelle trattorie romane. Unico risultato, e dunque uniche vittime vere di tutto questo, la società che gestisce il ristorante del Senato deve licenziare un po' di dipendenti che si sono barricati ieri nel ristorante del Senato. Cioè loro le vittime di questa cosa, no, non volevamo che fossero loro le vittime di tutto questo, no? Della campagna contro la casta. No, però non vogliamo che fossero le vittime, però quando le cose non funzionano bisogna ristrutturare, quindi anche il ristorante del Senato va ristrutturato. E certo. No, a me devo dire che mi ha colpito più in prima pagina su alcuni giornali, tipo il Corriere della Sera, il Messaggero, questo Stormfront, sito di filo nazista. Ah, ti ha colpito? Che fa l'elenco dei coccola immigrati. No, ma tra poco ne parliamo, perché ha colpito veramente. Gad Lerner ha detto sono onorato di essere in quella lista con persone che stimo, ma certo sono germi di intolleranza che fanno un po' discutere. Non ti ha colpito anche, forse hanno dato poco risalto i giornali, a me ha colpito la liquidazione che prenderà Franco Nicoli Cristiani, che è stato arrestato con l'accusa di aver preso tangenti. Per carità, siamo garantisti, vedremo, ma siccome lui si è dimesso dal Consiglio regionale della Lombardia, prenderà una liquidazione di 340.000 euro di fine mandato. Lordi? Non so, l'ordine. È in più una pensione da ex consigliere regionale da quasi 5.000 euro al mese. Ma deve rispondere di tangenti. Per carità, garantismo al massimo, però. Ma come una liquidazione di 340.000 euro più una pensione di 5.000 euro al mese? Vedi, questa sarebbe una buona ipotesi per i politici che mal governassero e incorressero reati amministrativi. Io sarei favorevole a modificare con norma apposita per cui si perde a quel punto anche parte delle pensioni delle televisioni. Attualmente, per carità, attualmente non è se così. Se sarà colpevole, se sarà dimostrata la sua così, colpevolezza. Però effettivamente fa specie, no? Le accuse sono di aver preso delle tangenti e viene liquidato con 340.000 euro e da gennaio prenderà 5.000 euro al mese di pensione, a meno che la regione non si costituisca parte civile al processo, e questo congelerebbe forse con questa tecnicalità il tutto. Speriamo lo facciano. Senti, no. È un'associazione di idee che mi è venuta in mente. A pagina 39 della Stampa c'è un articolo di Giorgio Calabrese, nutrizionista, col titolo "La dieta del frigo vuoto non vale solo per Natale, varrebbe anche per i politici". Secondo me un bel po' di frigo vuoto ai politici non farebbe male. E ristoranti, per ora sono i ristoranti del Senato vuoti, e ne pagano, esatto. E ne pagano i dipendenti del comunque Senato. Comunque mangiate poco in questi giorni, cari ascoltatori, così il portafoglio sta meglio, ma soprattutto poi non infliggete alla moglie il vostro malessere digestivo. La moglie bisbetica, come sempre, lo Stato. Quella già lo è normalmente. Figurati se tu poi mangi troppo. Milan, devi mangiare meno, questa è la verità. Io, la mia idea è che bisogna sorprendere tutti invitati al cenone della vigilia, niente in tavola. Suonano e tu sei fuori. No, no, dare io li intrattengo, ma non c'è niente da mangiare. Questa è la cosa. Il digiuno, che è una maniera di accostarsi, credenti e non credenti, uguale allo spirito di una festa, per cui non mangiando è festa meglio. Ho letto di recente di un matrimonio che è andata più o meno così. Sì, più o meno. Eccoci qua, caro Oscar. Eccoci qua. Ci chiedono sempre ballando. È una musica del 29? No, è musica del 45, 44, non so cosa sia meglio. Ecco. Beh, 45. Cioè, diciamo che bisogna ricordare che per uscire dalla grande crisi del 29 ci fu bisogno del secondo conflitto mondiale. Naturalmente, speriamo di aver imparato la lezione, di non aver bisogno. Se è 44-45, si vedono dalle macerie, si comincia a intravedere. Sì, ecco, no? Preferirei non immaginare che la moneta ha sostituito la spada e che occorre di nuovo la spada per rimettere a posto la moneta, perché sennò è finita qua. Allora, Oscar, dalla politica, il capo dello Stato, continuiamo ovviamente la lettura dei giornali, ha fatto un intervento nel quale ha ribadito che non esiste alcuno strappo costituzionale nel fatto che ci sia un governo tecnico. Napolitano ha difeso la nomina di Monti, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 5, nessuno strappo costituzionale, molti giornali aprono su questo, Giuliano Ferrara attacca sul Foglio, la democrazia è sospesa e come lei, signor Presidente, deve accettare la verità delle cose. Oscar, perché questo richiamo del capo dello Stato e in questo momento il significato di questo intervento di Napolitano? Sono d'accordo con Stefano Fogli sulla prima del Sole. Questo mantello al Quirinale serve a far capire ai partiti che il governo è senza alternative, che andrà avanti, che più tocca nervi scoperti, come capita col mercato del lavoro in questi giorni, con la discussione avviata e le reazioni durissime che ci sono state da parte sindacale, e che secondo me sono più convincenti questi temi, la riforma del mercato del lavoro come quella delle pensioni, rispetto alla strage di tasse che ci ha fatto nella manovra, tanto più il Quirinale continuerà, e secondo me questo nel sostegno, secondo me è una comprensibile strategia, devo dire. Avete sentito, strage di tasse, alle 8:30 lo dirai ad Attilio Befera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Befera, così colui che Befera deve... non è responsabile. No, certo, colui che deve riscuotere. È colui che deve fare il mestiere difficile e lui lo fa bene il mestiere difficile. E, tra l'altro, le reazioni politiche, secondo il Corriere della Sera, pagina 6, il Cavaliere, ottimo intervento, elogi anche da PD e Terzo Polo. Ti segnalo, tra l'altro, su Repubblica, pagina 3, retroscena della politica di Francesco Bei. il patto segreto tra Bersani e Alfano, dunque PD e PDL, il sostegno a Monti ci costa, aiutiamoci. Oggi ci sarà anche, secondo Repubblica, un pranzo tra Mario Monti e Berlusconi Gianni Letta. Quindi mi pare che i contatti con la politica, come si vede, che prima venivano smentiti, quasi i partiti entravano dalla porta di servizio, iniziò a diventare di amministrazione, ma è così, è ovvio che sia così. Allora, ieri c'era tutta la polemica sull'articolo 18, non è finita ovviamente, Oscar, per sulla niente. Riforma del lavoro, anche se ora i partiti cominciano a dire l'approccio è sbagliato. Pare che lo stesso Alfano abbia detto al ministro Elsa Fornero, guardi ministro, che su questo ci vuole un approccio un po' diverso. La cosa che mi colpisce è che il PDL non ha una proposta di riforma del mercato del lavoro, non ce l'ha depositata, mentre da anni tutto il dibattito italiano va, in realtà si incardina tra due proposte che sono di metà del PD da una parte e metà del PD dall'altra, la proposta di Chino da una parte e quella Nerozzi, ex segretario confederale della CGIL, dall'altra. E oggi Cesare Damiano sul Corriere infatti dice no a Chino, praticamente, perché è travestito da no al modello del flexicurity danese, che è quello che ispira la proposta di Chino. Quindi ci fa capire che Damiano, come Stefano Fassina eccetera eccetera, sta in un modello in cui il contratto unico per tutti è al massimo 3 anni di contratto di inserimento, ma per il resto l'Italia diventerebbe l'unico paese al mondo in cui c'è solo il contratto a tempo indeterminato. No, ma tra l'altro Damiano ha fatto una cosa in più in questa non è un'intervista, è un colloquio, pagina 9 del Enrico Corriere della Sera. Racconta, se io andai a vedere questo modello danese con Paolo Ferrero e con Tiziano Treu, ex ministro del lavoro, andammo incuriositi e vedemmo questi uffici, fummo colpiti da questi uffici straordinari nei quali c'erano le persone che parlavano, per esempio studi di architettura, silenziosi, luminosi, c'erano colloqui individuali tra i funzionari e i lavoratori licenziati. Tutto racconta uno scenario molto bello, dice. E quindi, quando divenni ministro del lavoro, cercai di tradurre tutto questo in qualcosa in Italia. Ma mi dissero gli ispettori del lavoro, per esempio, sul fatto che in Danimarca un lavoratore licenziato all'ufficio di collocamento non può rifiutare un'offerta di lavoro equivalente, se no perde il sussidio. Ma qua, ministro, c'è per esempio al sud la camorra che controlla settori del mercato agricolo, sarebbe difficile applicare un sistema. E quindi, siccome c'è la camorra, noi dobbiamo avere il mercato più rigido del mondo. Antropologicamente inferiori, ma quindi non possiamo applicare. Questi sono argomenti per travestire il fatto che Damiano è rimasto con la testa lì dietro. Io la penso così, ognuno, i punti di vista sono legittimi. Però oddio, che il contesto sociale, ma cosa c'entra? Bisogna far conto anche col contesto sociale, ma non è che siccome c'è la mafia allora tenere il mercato del lavoro più rigido del mondo, cioè questa è la pertinenza. Io dico, il contesto sociale va tenuto in debito conto. Certo, è forte questa frase, dice, siccome c'è la camorra qui non possiamo applicare però dovrebbe valere anche per l'evasione fiscale. Siccome c'è la camorra, non stupiamoci più che abbiamo la giusta evasione più alta. Vale per tutto o non vale per nessuno? No, tra l'altro, Oscar, io ti vorrei far riflettere ancora sul ministro Elsa Fornero, sì, che è entrata nelle polemiche dell'articolo 18. È il ministro più in discussione. Ieri, per ringraziarsi Topolini di sinistra, ha detto che i salari vanno alzati per decreto. Esatto, praticamente. Però si alzano per decreto i salari. No, ricordiamo al signor ministro che si doveva un po'. La signora ministra. Tra l'altro, la Camusso mi è piaciuto ieri, perché quando il capo dello Stato ha fatto l'intervento c'era anche lei. La Camusso e il capo dello Stato, scrivo i giornali, si è rivolto a lei con un gesto come dire: dai, non essere così cattiva. Di fronte a tutti ha alzato il dettino a monitore e ha detto: presidente, non ci provare, noi resteremo durissimi. Quindi la Camusso non si piega a Napolitano. Praticamente è uno scontro tra diverse tendenze carriste. Ma tra l'altro, la Fornero, che ha iniziato con le celebri lacrime, poi la questione dell'articolo 18, ora ce l'ha con i giornalisti. Oh, diciamolo forte, ieri è andata a un convegno, c'era di fronte la Federazione Nazionale della Stampa, cioè il sindacato, c'erano i rappresentanti dell'INPGI, che è la cassa di previdenza dei giornalisti. E ha detto: voi siete dei privilegiati, sì, e lo fate per ingraziarvi il potere politico. E la cosa un po' particolare è che oggi la casta giornalistica si comporta come la casta politica, perché uniti nella difesa a spada tratta troviamo il Manifesto da una parte e il Giornale dall'altra. Il manifesto ci apre addirittura: state zitti, con il volto, la foto di Elsa Fornero, state zitti ai giornalisti, ministra shock, privilegiati e ruffiani. Ruffiani non l'ha detto. Lei non l'ha detto, ovviamente, che il manifesto inventa. Però anche il giornale in prima pagina, pezzo di De Filippi. Ora pensa a far caccia a cassa. Allora, diciamoci la verità. Non sa cosa ha mosso la casta dei giornalisti. Ho capito, però questa storia delle casse, noi bisogna che diciamo la verità. La ministra ha il torto, agli occhi dei colleghi giornalisti che si occupano del sindacato, di aver chiesto alla cassa dei giornalisti, come ad altre private, lei voleva entro marzo, invece sarà entro giugno, la dimostrazione di un equilibrio di matematica attuariale tra contributi incassabili e trattamenti da versare addirittura per i prossimi 50 anni. Questa roba è stata presa malissimo dalle casse, che dicono: ah, questa ci vuole portare all'INPS. Ma tra l'altro la Fornero ha detto: voi giornalisti siete quelli che predicate trasparenza con tutte le battaglie. Ha ragione, però, ha ragione al 100%. Praticate il giornalismo della trasparenza, cari politici, fate perché lei dice per primi, no? Siccome è già capitato con la cassa dei dirigenti delle aziende che non si è trovato in equilibrio e poi l'INPS ha dovuto sborsare, perché la politica ha dovuto sborsare, non vorrei che la stessa cosa capitasse con altre casse private. Naturalmente le casse private dicono: se ci chiedi l'equilibrio in 50 anni negandoci di farlo anche con la parte patrimoniale, con gli immobili, allora vuol dire che ti vuoi prendere i soldi dell'INPS. Tieni conto che Mucchetti sul Corriere oggi fa un pezzo sulle liberalizzazioni, in cui dice: ah, liberalizzazioni da pochi euro, ma invece ne sono più importanti, e uno degli esempi che fa è proprio quello di dare all'INPS i soldi del pilastro previdenziale. Questa cosa verrà sottolineo perché l'amico e compagno Mucchetti, dico un po' compagno ridendo, è un po' di tempo che avanza proposte da stato sempre più socialdemocratico, perché dice liberalizzazione, però lui le vuole portare all'INPS i soldi del pilastro privato. Quindi, come vedi, la Fornero non è sola. Senti come ha reagito l'ex presidente segretario dell'FNSI, cioè il sindacato dei giornalisti, dopo l'intervento della Fornero. Luciano Cesqui: lo stomaco mi ribolle, sono indignato da questa maestrina dito alzato. No, è maestrina, ma diamogli un malox se lo stomaco dire che abbiamo l'impgi perché ci arruffianiamo i politici è un insulto abnorme, una cosa folle e falsa. Ha scatenato la cassa dei giornalisti. Auguri a Elsa Fornero, nel solidarietà senso, al ministro. Solidarietà ma anche da questi microfoni io e te non difenderemo la casta nostra. No, io sono contro le caste. Se c'è una casta dei giornalisti, se c'è, è la prima che va smantellata, e sarò con l'elmetto e l'alabarda. Casta la vista, basta la vista. Casta la vista. Allora, intanto continua la questione della polemica, che si è un po' come un piccolo soufflé già un po' smontata della polemica dell'obiezione fiscale della Lega contro l'IMU. Oggi Zaia, governatore del Veneto, in un'intervista alla stampa dice: alta intervista istituzionale, dobbiamo vedere, no? No, dice: non voglio che l'obiezione fiscale, quella dei sindaci leghisti, sia un danno per i cittadini che si trovano poi esposti a sì, ma dice anche: dobbiamo prima approfondire. No, dice: non mi voglio trovare equitario in casa. Questo lo chiederemo a Befera. Dice: non voglio trovarmi certo i cittadini che con Equitalia che bussa, anche perché, e qui c'è l'accusa, il cittadino non ha gli strumenti per difendersi. È un po' come dire: sai che ci sono politici che stanno raccogliendo firme per fare una proposta politica contro Equitalia? Cioè io ho più volte invitato, per esempio, sia in Sardegna, sia un consigliere regionale dell'Udc in Piemonte e così via. Ghigo? Esatto. No, non è Ghigo quello. C'è anche Ghigo adesso. Sì, Ghigo però è l'ex Forza Italia. Sì, sì, certo, ex presidente. E che dici di questa cosa, di questa protesta? Si sgonfierà come un soufflé? No, dico che l'intervista di Zaia fa capire che poi alla fine, quando si ricoprono responsabilità istituzionali, prevalgono altri temi. La solita storia del sparata della Lega e poi in concreto. Vabbè, a proposito di tasse, Libero racconta a pagina 13 che la tassa più odiata dagli italiani, che da sempre sai qual è? Il canone. Il canone da sempre è stata quella. Il canone della Rai sale forse di 1,50 euro. A gennaio. Fai bene a sbattere, perché vedo che sbatto dallo sconforto. Come renderla ancora più impopolare questo servizio pubblico? L'ex servizio pubblico, perché ne ha perso i connotati, una televisione commerciale da tutti i punti di vista, continuerà a essere più impopolare. Più 1,50 euro. E poi la gente. E tra l'altro c'è chi oggi illustra un tentativo di riforma della RAI che viene attribuito a Monti, che è una materia delicata, perché la RAI, per un non politico, molto difficile pensare che ci riesca. Raccontiamola dopo le informazioni sul traffico. Su Repubblica c'è questa idea, secondo Repubblica, di Monti, di riformare il consiglio di amministrazione della RAI, vertice della RAI, per togliergli dalla politica. Dai, praticamente è più facile riformare le Nazioni Unite. Esatto, ridiamo, per togliergli dal controllo della politica. La RAI deve cessare di esistere come servizio pubblico, va privatizzata, punto. a Valle Chiara, ma che credo? Ma chi ci prende? No, ti scrivono, dite a Oscar e a Alessandro che il pezzo di Glenn Miller. E lo so, boh, vale, sera Ned, ma è ovvio, questa roba si impara a ballare quando si ha 5 anni, quando si ha la nostra storia. Poi tra l'altro Glenn Miller, eroico, caduto nei cieli, purtroppo combattuti tra nazisti e anglo-americani, questa è stata la sua terribile fine nell'inverno del 44. Allora, possiamo tornare un secondo all'economia? Posso fare due accenni un po'? Sì, poi la RAI è che l'avevamo detto. Aspetta, abbiamo sorpreso la RAI perché volevo dire, singolare, su un tema fondamentale, perché poi avremo Ghizzoni più tardi, sul tema fondamentale, prendete i due editoriali oggi, uno del Corriere della Sera e di Francesco Giavazzi e l'altro è quello del Sole, di Alessandro Platerotti, e trovate su un tema delicatissimo, cioè la BCE che deve dare e darà molti aiuti alle banche con queste aste straordinarie di liquidità che servono per sostenere le banche, che hanno difficoltà di ricapitalizzazione e servono anche per dargli le munizioni, forse, per continuare a sostenere, speriamo, anche i titoli del debito pubblico. Le opinioni dei due editorialisti sono radicalmente opposte, in sintesi, perché Alessandro Platerotti e il Sole dicono benissimo questa cosa della BCE, certo resteranno i problemi, ma insomma è giusto immaginare che la BCE faccia questo. Francesco Giavazzi dice no, la Banca Centrale non è affatto la soluzione ed è un errore consentire a grandi banche italiane di non diluirsi, perché bisogna invece che vadano a fare gli aumenti di capitale, e quindi i soci storici, se non hanno i soldi, invece che stare sui soldi della BCE, dovrebbero diluirsi. Il Sole pensa il contrario, per dirne un'altra. E dopodiché la conclusione di Francesco Giavazzi è questa: la BCE può contribuire ad attenuare la recessione, ma pensare che passi per Francoforte la soluzione ai nostri problemi è un'illusione, è anche una polemica contro tanti politici italiani che hanno sostenuto invece l'esatto opposto. E aggiungo, il Messaggero c'ha una bella cosa, secondo me una delle cose più interessanti per lettori non tecnici oggi, perché a proposito del fatto che in Italia si guadagna poco, quello che ha detto la Fornero dicendo alzate i salari, c'è una bella pagina 7 che trovate, Barbara Corrao, con questo Tax and Wages, che è un rapporto dell'Ocse su i redditi comparati del lavoro dipendente. Italia, fanalino di coda dell'Ocse, 19.000 euro l'anno in medio il lavoratore single come retribuzione, tenete conto che questi 31.000 dollari, quindi sono questi 25.000 dollari, perdonate, sono 19.932 euro, devono combattere i 25.000 euro nostri con i 31.000 dollari, perdonate, della Germania, i 42.000 dollari della Svizzera. Quindi da questo punto di vista trovate tutte le graduatorie comparate e c'è molto di che riflettere, perché oggi stiamo aspettando i dati sul terzo trimestre, li darà l'Istat, del PIL italiano, e comincia da oggi la recessione, tra poche ore lo apprenderemo. Bene, e la RAI, allora dicevamo, secondo Repubblica, Goffredo De Marchis, la tentazione di Monti è quella di mettere un super manager e un consiglio di amministrazione con tre consiglieri e non, credo, 7, 6, 9, quanti sono adesso? 9, credo. Okay. Per l'obiettivo è togliere il controllo della RAI alla politica. Bah, ci riuscirà Mario Monti, super Mario Monti, chi lo sa? È un classico argomento su cui se comincia a trattare con la politica non va da nessuna parte. E soprattutto lui può preparare una proposta, ma in Parlamento a quel punto la maggioranza si spacca, perché quindi deve farlo. La televisione in Italia è da sempre uguale politica. Il consiglio di vigilanza è una roba che non c'è, non ha equivalente in nessun altro paese al mondo. La GCOM, persino l'autorità di garanzia sul settore, è come metodo di elezione la più politicizzata, praticamente fotografando maggioranza e opposizione per attribuzioni partitiche, e quindi la vedo difficile. Allora, in ogni caso, Oscar, se abbandoniamo politica, economia, poi ci torneremo, tu quindi di cronaca sei rimasto colpito da questa blacklist, il Stormfront, il titolo del Sole 24 Ore, pagina 25, gli amici degli immigrati finiscono sul sito neonazista con Karima Mual che ne scrive. Io devo dire, non è che non bisogna assolutamente abbassare la guardia a queste cose, ma non c'è il rischio di enfatizzare magari un pazzo che così va sulla ribalta della cronaca, mette queste liste? Sì, può essere, però insomma è anche vero che siccome internet è aperta, in questo caso per esempio si servono di server appunto che stanno fuori dalla nostra giurisdizione, quindi è una cosa fatta con un minimo di professionalità, devo dire, lo schermo. È anche bene capire che in una città aperta bisogna tenere gli occhi aperti, le orecchie aperte, insomma. Questo sì. Sul Giornale, anche a pagina 14, i nazi fanno la lista dei coccola immigrati, ci sono anche dei giornalisti come Gad Lerner, Maurizio Costanzo, ma c'è anche il ministro Riccardi, c'è Riccardo Pacifici, il leader della comunità ebraica a Roma. Come di cronaca c'è anche tante pagine sempre sul calcio scommesse. So che non è, Oscar, il calcio la tua predilezione. Io invece ieri il Milan ha trionfato, quindi posso dirlo. Devo dire, una delle cose che mi tira di più, sì, di questa indagine è la certificata prova della triangolazione tra Camorra, mafie cinesi, eccetera eccetera. C'era una catena di raccolte, non solo di informazioni, ma di scommesse, di rigiocate, che era transnazionale. Certo, c'erano la banda degli zingari, gente che veniva da Singapore con le valigie di centinaia di migliaia di euro. Cioè, è incredibile come... E poi dice che l'Italia non è connessa con i mercati. Come sia globale questa corruzione, per la quale tra l'altro alcune persone cominciano ad ammettere, per esempio Alessandro Zamperini, ex calciatore, e Filippo Carobbio dello Spezia, secondo gli inquirenti avrebbero iniziato a collaborare, a dire effettivamente così compravamo i giocatori. Sono molte partite anche di Serie A sotto inchiesta, alcune per esempio Napoli-Sampdoria, dico di alcune squadre le più famose, quindi il Napoli, il Brescia è in molte partite, c'è anche Parma-Bari, c'è un Lazio-Genoa 4-2, un Catania-Roma, quindi anche grandi squadre, caro Oscar. E questo io dico sempre, io poi quando guardo una partita di calcio la guardo con la passione e penso di guardare una cosa pulita, pulita. Certo che però quando si leggono queste cose, perché se uno toglie anche un po' la passione del calcio e pensare che non stai guardando una cosa pulita, che cosa ti rimane? Spegni la TV. No, beh, con tutto rispetto, tante altre cose rimangono. No, ho capito. Per esempio, certo che rimangono. Per esempio, vedi come sono diversi i paesi, sul Corriere della Sera, pagina 21, c'è questo bell'articolo, l'atleta di Dio che divide gli americani, perché questo grande campione dei Denver Broncos, Tim Tebow, che si inginocchia e prega, devo dire che c'è una certa stazza, poi fa una certa impressione, e le preghiere e le partite accusate di esibizionismo. No, scusa, tu dici tu questa immagina, cosa... Ma perché lì, grande paese, capisci, non come noi che si vendono le partite, qui si inginocchiano e pregano, poi dici che non ti piace l'America, ma certo come piace l'America. Oscar, ma tu lo sai che Peter Bescapè, il nostro alpino, è anche un giocatore di football americano? Che soprattutto ne ha... Dove giochi, Peter? Fammi segno, in serie... No, ho capito, nei Demons, ho capito, in che serie sei, fammi segno, A, B, IFL, tu ci capisci qualcosa, no, però è un giocatore di football americano. La Italian Football League vuol dire, ma certo. Insomma, qua non si manca la BC, si vuol parlare di cose senza saperle, scusa, cioè. Poi vedi. Gloria allora ai Demons, ma che sono, fare. Quando uno, cioè, gloria, cioè, ai Demons, tu, in definitiva, squadra, vedi che hai studiato russo quando eri piccolo, sì, non riesci, sì, neanche a capire una sigla in inglese, cioè questo è, punto, è questo qua. Pensa, mi sono pure laureato in storia americana, che vergogna. Ma certo che volevi conoscere il nemico, ma quelli invece hanno vinto. Voglio loro. Voglio chiudere, possiamo chiudere con una notizia sulla quale non c'è nulla da ridere, Oscar. A me ha colpito innanzitutto molto. Ricordiamo l'intervista di Ghizzoni sul giornale, sì, ti vedo, certo, disattento. Certo, e poi sarà nostro ospite anche alle 9:10. Sul quotidiano nazionale, addirittura è l'apertura. Hai ragione. In Francia ci sono state installate 30.000 protesi al seno delle donne di una ditta che poi si è scoperto possono portare addirittura il cancro, e quindi ci sono anche 5.000 protesi installate in Italia. Il ministro della salute si sta attivando perché la situazione può essere davvero rischiosa, e potenzialmente rischiosa per molte donne. Solidale veramente. Tutti i giornali fanno una pagina su questo, protesi al seno e allarme rosso anche sul secolo XIX, nessun panico, ma è giusto che le donne, insomma, siano informate su questo dal Ministero della Salute. Io ho tre brevissimi flash. Foglio, prima pagina, Andrea Riello, candidato del Veneto, tra l'altro, presidente di Confindustria, che dice viva la Spagna che non aumenta le tasse, ma taglia le spese, e ieri c'è un'asta spagnola che è andata benissimo, molto meglio della nostra, quindi in questo Andrea Rajoy, meglio di Monti. Secondo flash, dal giornale questa volta, Monti ha copre di denarini Amalia Torres, che è un euroburocrate molto brava per tenere i contatti con la stampa internazionale. Bravo a farlo, perché che Berlusconi non avesse nessuno di livello per occuparsi di stampa internazionale si è visto poi cosa è successo. Infine, terza cosa, dal Messaggero, società italo-francese per la Torino-Lione, malgrado la TAV si forma una società mista, e questa secondo me è una notizia abbastanza buona. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Unicredit, sempre vicino alle imprese, vi ha presentato 24 mattino. Gli speciali di Radio 24. Ecco. Eccoci, 8:22 minuti, quasi 23 minuti. Oscar, siamo sempre di corsa. Siamo qui. Il tempo scarseggia, mica c'è tempo per... Il tempo è come la vita, bisogna saperlo sfruttare, perché il tempo massimo, è la vita. Al massimo. È il Radio Day, il secondo Radio Day. Tra poco avremo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che risponderà anche alle domande dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Ma prima, caro Oscar Giannino, ho una sorpresa per te. Cioè, prima di quella dell'Agenzia delle Entrate avrai un'ingiunzione, non lo so, una cosa così. No, tu sai chi è Johannes Büchler? Johannes Büchler è un acronimo, però non è un acronimo, no, è un pseudonimo. Uno pseudonimo. Sì, era un fuorilegge di fine Settecento in Germania che combatteva gli occupanti francesi in Renania, ma è comparsa questa firma da qualche tempo sul Corriere della Sera. Che a me non piacciono gli pseudonimi. Non piacciono gli pseudonimi. No. Soprattutto quando si sostengono tesi forti come quelle di Johannes Büchler. Johannes Büchler sostiene tesi forti e dice: per il lavoro che faccio non mi posso esporre, e si firma sul Corriere della Sera così. Ma è anche un, posso dire, un nostro amico? Il signor Johannes ci starà ascoltando. Ogni tanto ci manda degli audio. Ci ha mandato un audio, un commento, lo ringraziamo, gliel'abbiamo chiesto. La voce è un po' camuffata, ovviamente, perché anche la voce va. Johannes Büchler, che pensa della manovra? Così poi Oscar Giannino risponderà. Salve Alessandro. Büchler era fiducioso che un governo tecnico sarebbe rimasto ben lontano da quello che ha contraddistinto la politica negli ultimi anni. Agli economisti il compito di spiegare quanto recessiva sia questa manovra e chiarire a tutti noi come diavolo sia possibile far ripartire questo paese continuando a togliere soldi dalle tasche delle famiglie. Coniugare rigore, crescita e equità era impossibile, ma la soluzione era abbastanza semplice. Bastava sbilanciare la manovra verso tutti coloro che di sacrifici in questi anni ne hanno fatti ben pochi. Speravo che un governo tecnico non sarebbe stato colpito dalla sindrome del navigatore satellitare. Ha presente quello che continuava a ripetere? Girare a sinistra sulle pensioni, ricalcolo. Girare a destra sulla patrimoniale, ricalcolo. Andare tranquillamente diritti sulla lotta all'evasione, ricalcolo, ricalcolo, ricalcolo. Ma c'è qualcosa di ben peggiore di una mancata e seria lotta all'evasione. Invece di stanare i veri evasori, quella di continuare a colpire i presunti, come è stato negli ultimi anni con i presunti fatturati, i presunti redditi, i presunti privilegi, i presunti ricchi, i presunti di ogni genere. Mentre da gennaio, ora sappiamo che saremo tutti presunti evasori. Non sarebbe ora di stanare quelli veri. A forza di colpire i presunti ci siamo ritrovati in mano un presunto paese. E che nessuno ci venga a dire che è impossibile trovare gli evasori e i loro grandi patrimoni. In questo caso, una cosa sarebbe ancora peggiore del continuare a colpire i presunti. Quella di prenderci per i fondelli. Auguri a tutti di un sereno Natale. Almeno questo, nessun decreto ce lo può togliere. Eccolo qua, il nostro Johannes Büchler, dietro cui si cela chissà chi, dice questo. Oscar. Ma, no, non, sono sincero, non mi convince molto. Perché, beh, devi essere sincero. Perché la cosa di dire siamo tutti presunti mi vede d'accordo, figuriamoci, io difendo il diritto di tutti, però se difendo il diritto di tutti... E però sono per gli accertamenti, io dico semplicemente che bisogna che il cittadino contribuente nel contenzioso giudiziario venga messo in condizione di parità, mentre secondo me dal punto di vista della parità e del rispetto dei diritti il nostro contenzioso tributario continua a fare eccezione nel mondo. Cioè, ricordo a tutti, quando tu vai in contenzioso devi pagare, per il solo fatto di essere così azzardato da voler fare un contenzioso, pagare un terzo di quello che lo Stato ti chiede. Quindi finché sarà così e finché i magistrati tributari non saranno terzi indipendenti c'è un problema. Però il ragionamento di Büchler che dice siamo tutti troppo presunti, ma non mi vengano a dire che non si può subito mettere le mani nei grandi patrimoni e nei grandi evasori. È come dire: io presunto non voglio essere, ma lo so chi sono gli altri veri. Allora questa presunzione presunzione anche questa, e non mi piace, perché allora però un po' non si sa perché dà ragione allo Stato che allora sono tutti presunti, capisci? Perché la convinzione è che per esempio i vertici dell'amministrazione tributaria abbiano una specie di patto segreto con gli evasori italiani mi fa veramente morire dalle risate. No, ma non ha detto questo. La tesi è questa. Non vogliono. Non mi si venga a dire che non si sa chi sono e come si fa a metterli nell'angolo. Implica che siccome che non si sa che c'è una specie di patto. Allora, io questo mi sento di escludere in maniera più tassativa, perché a me non piace questa maniera, e lo dico con rispetto, perché io spesso mi ritrovo nelle analisi di sferzanti giudizi di Büchler che sono pubblicati, vogliamo dirlo. Dal Corriere della Sera. Quindi io mi trovo spesso. tendo un po' a pensare che in materia fiscale, però, che tanto più io difendo il diritto del contribuente dallo Stato, tanto più non posso applicare nemmeno io ragionamenti presuntivi nei confronti dello Stato, come se fosse in combutta con i grandi patrimoni. Io sono sicuro che Johannes Buechler, che ci ascolterà, perché manderà tu... una mail in facciamo cui ti replicherà. Ma è bello, ma Alessandro, ma cerchiamo di capire cosa vuol dire, e non mi si venga a dire che è così difficile identificare, cioè chi sono, visto che ne siamo così certi, i grandi patrimoni che invece forse vanno... non vuol dire chi sono, ma dove si annidano, no? In senso, non di persone fisiche, ma come andare a trovarli, e come andare a trovarli. Però lo Stato, ieri abbiamo riepilogato ben 10 novità che sono degli ultimi 2 anni. Che cosa bisogna fare di più? Introduciamo una batteria di cose nuove ogni mese. Tra poco il direttore dell'Agenzia delle Entrate ci spiegherà come si vanno a trovare. Poi è ovvio che anche lo Stato è in difficoltà di fronte all'enorme panoplia di accertamenti che deve porre in essere, perché le norme chiedono questo. Per esempio, nella manovra hanno fatto un mezzo pasticcio, perché per tentare di evitare la doppia imposizione dei ruoli che derivava dal ruolo dato ai comuni nella lotta all'evasione dell'amministrazione tributaria, hanno levato i comuni. Chiederemo a Befera, secondo me è più un pasticcio che uno snellimento. Glielo chiederemo tra pochissimo. Allora, pubblicità e meteo, e poi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, sarà con noi per una mezz'ora fino alle 9, rispondendo anche alle domande degli ascoltatori e alle nostre domande tra pochissimo. Gli speciali di Radio 24. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, Oscar Giannino. Eccoci, Oscar. C'era il microfono spento. Come c'è il microfono spento? No, adesso è acceso. Oscar Giannino. Ecco. Qui mi si tacita, ragazzi, capito? Da Milan io vengo considerato un pericoloso, accidentaccio. Ma figurarsi. Ringraziamo e salutiamo per essere con noi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Dottor Befera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per aver accettato questo invito. Senta, dottor Befera, intanto le chiedo io, questa immagine che si profila da molti giornali di essere nudi di fronte al fisco, soprattutto dal 1 gennaio 2012, quando i conti correnti verranno scandagliati, tutti i dati forniti all'Agenzia delle Entrate, è un'immagine che le piace, un'immagine che è sbagliata? No, non esageriamo, magari si può essere un pochino svestiti. Ma, no, poi in un paese in cui neanche i mariti si mettono nudi di fronte alle mogli, ma i giornali si esagerano sempre, qua c'è poco da fare. Diciamo che abbiamo la possibilità, ma solo ai fini di una analisi dei rischi di evasione, dei soggetti a rischio di evasione, abbiamo la possibilità di scandagliare, di esaminare anche le movimentazioni finanziarie. Questa attività è fatta centralmente con criteri di riservatezza e sicurezza rafforzati. I controlli sono limitati a un numero di persone, i controlli potranno essere effettuati a un numero di persone limitatissimo. Quindi rischi di diffusione di informazioni di Grande Fratello non ci sono assolutamente. D'altra parte, in Italia abbiamo 120 miliardi di evasione, ricordiamocelo sempre. Non è quindi che tutti i dati, tutti i nostri bonifici, tutte le nostre transazioni vengono comunicate? Vengono comunicati tutti i movimenti finanziari, ma vengono utilizzati solo al fine di selezionare rischi di evasori, quindi il contribuente che non ha rischio di evasione perché il suo reddito è coerente, è logico rispetto alle spese che sostiene e alla risparmi che ha, non ha nessun rischio, nessuno vedrà nulla. Dottor Befera, ieri ci ha colpito vedere che nel... uno dei blog che vanno per la maggiore da un po' di tempo in Italia, quello del noto politico ex attore comico Beppe Grillo, c'è una lunga nota in cui si addentrano nell'analisi di quello che è stato presentato ieri da Repubblica come Serpico, acronimo dei servizi per i contribuenti, applicazione della SOGEI per controllare i conti degli italiani, e sul blog di Beppe Grillo se ne dà una descrizione come se fosse, c'è scritto in eretto, violazione della privacy, controllo totale, eccetera eccetera. A me ha fatto, devo dire la verità, un po' sorridere, perché tentando di ragionare da anni su quali sono i limiti del nostro ordinamento, ma le tutele che vanno date ai contribuenti, quest'idea orwelliana per cui questo computer sarebbe quello che autonomamente decide chi selezionare in base a quali criteri, vogliamo spiegare come funzionerà in realtà questo computer? Allora, sono visioni un po' apocalittiche che non hanno nessun senso logico. Allora, noi abbiamo un computer che non cammina da solo, è controllato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In questo computer ci sono una serie di informazioni che vanno dai redditi dichiarati, agli immobili posseduti, ai contratti elettrici, a tutta una serie di informazioni, e recentemente sono state arricchite dalle spese che vengono sostenute dai soggetti. spese, alcune delle quali sono già comunque registrate, l'acquisto di un'autovettura essendo un bene mobile registrato e comunque presente nel sistema, altre le abbiamo rilevate negli ultimi anni attraverso campagne di acquisizione di informazioni. Ecco, tutto questo però è soggetto a dei rigorosissimi sistemi di sicurezza ed è protetto da norme penali. Chi fa un accesso all'anagrafe tributaria non per motivi di ufficio, ma perché vuole sapere quanto guadagna Oscar Giannino, è soggetto a denuncia penale. Quindi abbiamo già delle tutele che vengono poi rafforzate ulteriormente. E i criteri di selezione non sono inventati da un computer che improvvisamente cerca di capire chi sta evadendo, ma sono fatti secondo criteri che attribuiamo noi e attribuiamo noi centralmente dall'altro, quindi anche il numero delle persone che individuano i criteri e dicono al computer su quale base fare le selezioni sono persone che sono al centro qui a Roma e sono un numero limitatissimo. Dottor Befera, sulla questione dei dati, lo stesso garante della privacy Pizzetti ha espresso se non altro qualche perplessità, cioè sulla gestione di una mole di dati che inevitabilmente aumenterà. Ricordiamo che nella norma passata in Parlamento si prescrive che la cosa di attuazione sarà fatta sentendo il garante e anche l'ABI. Quindi ci sono tutte le garanzie del caso. Assolutamente, l'abbiamo voluto e abbiamo concordato con il garante che sia presente, perché è lui poi che ci deve dare le indicazioni per tutelare al massimo la riservatezza delle informazioni. Senta, ha sentito prima, noi abbiamo avuto un intervento audio con voce un po' criptata di Johannes Buchler, che scrive sul Corriere della Sera, ha pubblicato un libro, e la tesi è quella ben nota, c'è anche la nota di Beppe Grillo di ieri, secondo la quale, siccome in realtà nessuno dei grandi evasori fa le transazioni bancarie sul conto, i grandi corruttori non fanno bonifici, scrive ieri Beppe Grillo, ma anche Buchler l'ha sostenuto, in realtà tutto questo non serve a niente, perché ci sarebbe una specie di patto non dichiarato, per cui non ci si venga a dire che non è facile mettere le mani sui grandi patrimoni, si sa dove sono e chi sono, bisogna mettere le mani. Io ogni volta chiedo, ma se lo sapete voi così bene, perché non ce lo dite? Perché io non riesco a capire com'è. Faccio la stessa domanda anch'io. Allora, innanzitutto io non riesco a capire com'è che il grande evasore riesce a spostare, questo ho interpretato io, a spostare grandi capitali senza lasciare traccia. Che fa? C'ha le valigie piene di euro, di dollari e le porta in giro, quindi una traccia comunque viene sicuramente lasciata. Quindi da questo punto di vista, l'altra domanda è la stessa che fa lei, cioè a questo punto, visto che in Italia sono tutti bravissimi a fare la lotta all'evasione, tutti sanno come si fa e tutti sanno quali sono i grandi evasori, perché non ce lo dicono? Esatto. Però io una cosa non ho capito, dottor Befera, in realtà le banche, adesso vi dovrete confrontare tecnicamente, perché può essere che questa cosa costi e bisogna vedere chi la paga, ma al di là di questo, le banche che non dovessero dare piena cooperazione, proprio per capire, perché magari ci sono dei buchi, tanti pensano che ovviamente i sistemi bancari con gli sportelli all'estero magari hanno dei clienti un po' più tutelati, se ci sono sportelli italiani bancari o di banche straniere che operano sul mercato italiano, una licenza bancaria anche in Italia, e che tutelano poi magari chi fa triangolazioni sull'estero. A questo punto, voi come sarete certi che l'ABI, qualunque titolare di licenza bancaria italiana anche nei suoi sportelli esteri, vi dia davvero tutto? Mi permetto di ricordare che un paio d'anni fa, e l'abbiamo rifatto l'anno scorso, abbiamo fatto dei controlli attraverso criteri anche qui selettivi particolari, ma che erano legati un po' al mondo delle finanziarie, delle fiduciarie e così via. Abbiamo fatto dei controlli su alcune banche, incrociando i dati che siamo andati a prendere in banca con quelli che erano stati trasmessi all'anagrafe, per verificare proprio quello che dice lei, cioè che ci sia corrispondenza. Le banche hanno poi delle sanzioni se non sono trasparenti nei nostri confronti, e una sanzione indiretta è che se vediamo che c'è qualcosa che non va, ovviamente oltre a noi potrebbe intervenire la Procura della Repubblica per ipotesi di riciclaggio e così via. Io ne ho parlato proprio tre giorni fa col procuratore nazionale antimafia, perché lui nel suo libro Soldi Sporchi dà una cifra che a me è sembrata un po' eccessiva, comunque terribile, io ne ho anche chiesto conto, perché lui ha detto che ci sono 220 presenze italiane di banche italiane sull'estero, attraverso le quali negli ultimi anni sono passati addirittura 5.000 miliardi. Ho detto, questa cifra mi pare da dove l'ha presa il procuratore e così via, ma lui dice, come procuratore antimafia io non sono molto soddisfatto della piena cooperazione bancaria. Queste sono state le parole del procuratore nazionale nazionale antimafia. Posso chiederle un'altra cosa? Oggi su Sole 24 Ore si solleva uno dei punti della manovra sui quali è intervenuto anche l'ex ministro Tremonti domenica, quando è stato intervistato dall'Annunziata. Il ministro Tremonti ha dato un giudizio politico, quindi non deve rispondere a lei al giudizio politico di Tremonti, perché ha detto cattivo segno aver fatto venire meno il ruolo dei comuni che cooperavano con lo Stato e con l'amministrazione tributaria centrale. No, attenzione, dal punto di vista tecnico è venuto meno. Esatto, e oggi il Sole torna su questo dicendo forse la norma però ha fatto un po' un pasticcio, perché per evitare il doppio ruolo comune e amministrazione tributaria centrale la norma forse andrebbe un po' migliorata. Com'è davvero questa storia del comune? Allora, la logica di questa modifica era di togliere l'obbligatorietà della presenza dei consigli tributari nei comuni, perché la norma precedente prevedeva che il rapporto fra l'Agenzia delle Entrate dei Comuni avvenisse in effetti per il tramite di consigli tributari, che addirittura erano originariamente elettivi, quindi erano delle complicazioni un po' burocratiche. È stato tolto soltanto il consiglio tributario. Poi la formulazione esatta della norma la vedremo, se c'è bisogno di fare una piccola modifica la faremo, ma l'oggetto erano i consigli tributari da creare presso ciascun comune o presso i comuni superiori a 5.000 abitanti, che erano interessanti forse tanti anni fa, ma che adesso hanno perso un po' di significato. Dottor Befera, molti piccoli imprenditori, molte aziende accusano Equitalia di applicare troppi interessi sui ritardati pagamenti, di avere una campagna anche e una politica aggressiva per la riscossione dei tributi. Risponda a qualcosa su queste accuse che conosce bene anche lei. Guardi, purtroppo qui c'è una disinformazione totale. Ci accusano anche di usura. Allora, Equitalia applica delle leggi dello Stato. I tassi di interesse sono stabiliti con legge o con primario o secondario, quindi o con decreti o con legge. E i quattrini non vanno a Equitalia, ma vanno all'ente impositore. Tra l'altro attualmente il tasso di interesse mi pare che sia il 5,02%, che non mi sembra che, visto l'andamento dei tassi italiani, sia un tasso particolarmente rilevante. La disponibilità di Equitalia è data da alcuni numeri, oltre 1.600.000 rateazioni, adesso è stato allungato anche il termine per la rateazione in caso di difficoltà, oltre 60.000 richieste di sospensione da parte dei contribuenti perché hanno un problema con l'ente impositore, ed è Equitalia che si fa carico di andare a risolvere il problema con l'ente impositore. Purtroppo c'è una campagna fortissima di disinformazione. Si critica Equitalia perché mette ipoteche e fermo amministrativo alle autovetture, ma le due misure non incidono direttamente sul patrimonio o sul reddito dei soggetti. Nei paesi europei queste due misure non si usano normalmente. Quando c'è da riscuotere coattivamente si va sul conto bancario, si va a prendere il quinto dello stipendio e si preleva. Quindi mi sembra che sia più una campagna di disinformazione volta a rastrellare qualche voto o a arricchire gli studi di avvocati e commercianti. E su questo ci sono anche, come sa, delle proposte di legge politiche contro Equitalia. Gli speciali di Radio 24. Allora siamo con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, al quale vorrei chiedere che ne pensa di queste proposte di legge contro Equitalia, e anche, dottor Befera, le chiedo della proposta della Lega, che poi si capirà bene se verrà formulata meglio, di obiezione fiscale all'ICI, quindi a una tassa. Ma per quanto riguarda le proposte di legge, io ho letto delle bozze di proposte, mi sembra un po' fuori dal mondo, però essendo politica, fuori al mondo dal punto di vista tecnico e non dal punto di vista politico. Non essendo io un politico, non vedremo poi il Parlamento che cosa intende fare. Ricordiamoci sempre che 120 miliardi di evasione, e questo io non mi stancherò mai di dirlo, possono aumentare se il punto terminale della lotta all'evasione, cioè colui che va a riscuotere, viene indebolito, perché indebolisce tutta la filiera. Quindi su questo dobbiamo stare molto attenti. Per quanto riguarda la Lega è un fatto tecnico, politico, non tecnico, e mi astengo da qualsiasi risposta. Credo che però il dovere fiscale, il dovere di pagare le imposte, qualunque esse siano, sia alla base della democrazia. Dottor Befera, secondo lei, nel rapporto, diciamo così, un po' problematico con l'opinione pubblica su questi argomenti, quanto una riforma ordinamentale, per esempio sul contenzioso tributario, sulla terzietà, per esempio, dei componenti delle commissioni tributarie e così via, aiuterebbe? In questo, secondo lei, la politica non dovrebbe fare una riflessione tecnica per introdurre anche in questo procedimento le garanzie un pochino più estese che ci sono in quello penale e così via? Io sono aperto assolutamente a, a una revisione totale di tutto il contenzioso, ma direi un po', qui bisogna fare una revisione di tutto il sistema. Noi abbiamo un TUIR, un testo unico di imposte dirette, che ha 40 anni ed è stato manipolato per 40 anni per motivi diversi, e questo crea problemi a noi, crea problemi alle imprese, crea dei contenziosi inutili e quindi poi delle interventi di commissioni tributarie che sono del tutto inutili se avessimo un po' più di semplicità e di chiarezza nelle nostre norme. Faccio un altro esempio. Questo ieri abbiamo ricordato che per imprese fino a 99 milioni, se non ricordo male, ci sono termini molto brevi adesso per dare all'amministrazione tributaria tutta una serie di informazioni su anni 2005, 2006, 2007 e così via, e bisogna stare molto attenti perché quello che le imprese non daranno in queste due prossime settimane all'amministrazione tributaria, l'amministrazione tributaria poi si può riservare, se per caso il faldone uscisse fuori tra tre settimane, quando troppo tardi, poi di disconoscere questi dati. È corretta questa informazione che oggi viene da Italia Oggi e non da solo? L'amministrazione finanziaria è molto attenta in questi casi, noi non applichiamo la norma, cerchiamo, addirittura abbiamo proposto, ed è passata se non ricordo male, una proposta per attenuare anche i ritardi nei versamenti, le sanzioni per i ritardi nei versamenti. Assolutamente no, quando parte una nuova procedura, quando c'è una nuova richiesta, noi siamo assolutamente attenti a non creare problemi di sanzioni, di verbali e così via, nella fase iniziale di avvio del sistema, perché errori ci possono essere da parte dei contribuenti, dei commercialisti, ma anche da parte nostra. Le norme le applichiamo quando poi è tutto a regime, perché a quel punto la mancanza. Quindi in questa fase iniziale possiamo, secondo, rassicurare l'impresa? Assolutamente, poi stiamo esaminando adesso se dobbiamo dare qualche termine in più largo, aspettare un attimino, vediamo. Ma su questo credo che ci sia una tradizione oramai di qualche anno che prevede appunto che non, in fase di avvio non si applichino sanzioni. Vogliamo sentire un ascoltatore dei tantissimi che ci stanno chiamando, ma insomma abbiamo scelto uno, tanti sono in linea. Francesco da Caserta, buongiorno. Francesco, sia breve nella domanda e vado al punto. Ci provo, ma dottor Befera, velocemente, io mi sono ritrovato ad aprire un'attività, sono un agente di commercio, nel 2000 un negozio di abbigliamento, che purtroppo è andata male fin dall'inizio con dei soci. E niente, purtroppo ero io l'amministratore e mi sono dovuto accollare tutti i debiti e non ho mai ricavato una lira. Dal 2005 che ho chiuso l'attività mi stanno arrivando studi di settore assurdi dove mi chiedono soldi, qualcosa come utili 15-20 mila euro l'anno, che io non ho potuto contestare perché entrato nel vortice non ho avuto più né commercialista né nulla. Sono andato alla gestione. Quindi qual è il punto che lei dice? È un'assurdità tutto questo? Praticamente mi hanno impoverito, ho pagato fornitori, ho pagato dipendenti, ho pagato tutto, non ho mai trovato utile da questa attività e mi ritrovo con dei fermi amministrativi perché lo Stato dice che io praticamente mi sono ritrovato. Ma il suo rapporto formale con l'amministrazione tributaria quando ha fatto presente la condizione? Allora, massimo le possiamo abbattere il 20%, altrimenti va in contenzioso. Io non avendo avuto soldi per pagare il commercio. Non è andato in contenzioso perché non se lo poteva permettere. Sono delle sanzioni pecuniarie assurde, guardi, è una cosa vergognosa. Dottor Befera, lei certo non conosciamo la situazione poi nel particolare, però che rispondiamo a Francesco? Ma guardi, il sistema sanzionatorio è una delle cose che sicuramente vanno riviste. Ricordiamoci però che la sanzione serve perché pagare le imposte è un obbligo, non è una facoltà. Io capisco lei che il signore ha pagato fornitori, ha pagato sicuramente i dipendenti, eccetera, però questa, mi si permetta una critica indiretta, questo concetto che è più importante pagare il fornitore e meno importante pagare lo Stato, e poi quando lo Stato arriva e applica delle sanzioni che sono cattive, è un concetto che un po' mi lascia perplesso. Cioè, i debiti sono nei confronti dei dipendenti, dei fornitori e dello Stato, ed hanno lo stesso livello di pagamento, anche perché ci si lamenta delle sanzioni allo Stato, ma se non si paga al fornitore forse le sanzioni sono ancora maggiori? Dottor Beffa, perché lo state lasciato per ultimo? Noi abbiamo un minuto, mi può spiegare perché l'Italia è il paese degli scudi fiscali? Domanda da fare a un politico, no, domanda da fare a un politico. No, certo, ho capito, no, no, domanda da fare a un politico, a me. No. Ma mi mettete sempre nei guai, ma io che mi batto per il povero contribuente, devo sempre riconoscere che a Beffa non possiamo fare le domande da fare ma ai politici. No, ho capito, però. Se mi consentite però, in questo minuto, io vorrei dire una parola perché forse nessuno ha notato una cosa, c'è un articolo 10 nella manovra. Giusto. Che è il regime premiale per favorire la trasparenza. Che è una cosa importantissima, perché si è parlato tanto in vari convegni, riunioni, eccetera, del fatto di premiare i contribuenti onesti. È stata introdotta la norma, nessuno forse l'ha fatto caso, ma chi è trasparente con l'amministrazione ha una serie di vantaggi incredibili, minore tempo per fare l'accertamento. Cioè, i cattivi come me dicono che vi siete proposti di sostituire il commercialista, vi mandiamo le fatture e ci fate da commercialista. Però a quel punto è un po' difficile che io possa obiettare. Lo so, però non posso più obiettare una volta che Beffera mi dice cosa gli devo. Intanto la ringraziamo molto, Attilio Beffera. Grazie infinite. Grazie delle entrate per essere stato con noi. Oscar, noi ci dobbiamo fermare. Ci siamo esposti a una bella impopolarità, perché andare con Beffera, certo, sappiamo che significa rendersi impopolari come tutte le persone troppo serie nel nostro paese. Gli speciali di Radio 24. Ed eccoci qua, speciale oggi continua, me l'hanno detto di non dirlo, io lo ridico perché io naturalmente l'ho fatto apposta, che è la quinta volta che mi dicono non devi cominciare dicendo che lo speciale continua. Comunque, questa versione speciale in realtà della versione di Oscar, sono qui con Alessandro Milan, salutiamo eccoci gli ascoltatori qua, e iniziamo immediatamente perché a pochi minuti si è reso a nostra disposizione l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno Ghizzoni. Buongiorno a tutti. Allora, posso cominciare subito da una sua opinione intorno alla liquidità, perché abbiamo già visto oggi segnalato gli editoriali del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, ci sono due opinioni un po' contrastanti, ma insomma entrambi si appuntano su questo grande fatto che sono le aste di liquidità triennali, che è la maniera della BCE, estendendo il collaterale con cui la BCE è guidata da Mario Draghi, dice al sistema bancario europeo faremo tutto il possibile e anche tutto ciò che poteva sembrare impossibile fino a poco tempo fa per sostenere il sistema bancario che è corto di liquidità e che si trova a dover ricapitalizzare, come dice l'autorità europea, e si trova inoltre a dover valutare a prezzi di mercato, mark to market, i titoli pubblici, proprio mentre sono in ballo la sostenibilità dei debiti sovrani. E un suo giudizio su questo strumento, le aste di liquidità, come e se bisogna prevedere che l'ampiezza di queste aste di liquidità, qui si parla di centinaia di miliardi di euro messi a disposizione della liquidità, siano la vera risposta, una risposta adeguata, qual è la sua valutazione? Teniamo conto, diciamo ai nostri ascoltatori, Unicredit è una banca che è impegnata all'inizio di gennaio in un nuovo round di ricapitalizzazione, è ovvio che aste di liquidità così estese sono una risposta per tutti, anche per Unicredit che è la banca che ha più asset e più internazionalizzata del sistema italiano. La mia valutazione è positiva, negli ultimi settimane il problema maggiore che le banche europee avevano era proprio la liquidità, il mercato dell'interbancario si era completamente bloccato, quindi questa è una risposta importante. Oggi prevedo un ricorso massiccio da parte di tutte le maggiori banche europee, di tutti i paesi, quindi questa liquidità verrà immessa sul mercato, spero e sono convinto che vada soprattutto a sostegno dell'economia reale, quindi sia evitato il famoso credit crunch di cui si parla così spesso in questi giorni. Poi le banche dovranno ovviamente ricapitalizzare, come lei ha ricordato, noi cominceremo da gennaio, ma oggi è un passaggio molto importante. Da parte nostra l'impegno è proprio quello di usare questa liquidità a sostegno della nostra clientela. E questo è il punto, infatti si discuteva con Oscar Giannino, cioè se le banche lo utilizzeranno per le aste dei BTP o per rifar ripartire le linee di credito alle imprese, cioè, quindi all'economia reale, alle imprese che chiedono denaro, Ghizzoni. Sì, no, noi siamo stati chiari, sono una liquidità che nell'interesse di tutti, non solo delle banche o dello Stato, eccetera, deve essere principalmente fornita all'economia reale, come dicevo, perché se riparte o comunque viene attenuata la caduta delle ultime settimane è un beneficio per tutti quanti. Quindi noi andiamo in questa direzione, certamente. Non è una maniera un po' impropria, ritengono alcuni osservatori, anche di, insomma, abbiamo visto molti editoriali sul Financial Times, oltre che su Sole 24 Ore, non è una maniera un po' impropria questa di prevedere che siano le banche, con tutti i problemi che hanno, e di dover sostenere anche, come ha appena detto, l'economia reale, a dover indirettamente tramite queste aste straordinarie di liquidità con collaterali estesi, poi dover pensare anche a tenere su le aste dei titoli pubblici? Non è una maniera un po' impropria e indiretta? Non le chiedo un giudizio politico, le chiedo un giudizio tecnico di sostenibilità concorrente, visto che avete il problema del vostro capitale, di quello di non traslare clienti, imprese e famiglie, in più anche aste, sappiamo che ci sono centinaia di miliardi di titoli sovrani in scadenza l'anno prossimo, insomma è un bel triplo compito, come dire. Sì, certamente non è nella missione delle banche comprare titoli di Stato, è vero che le banche, le maggiori banche di ogni singolo paese sono spesso intervenute in asta se c'era necessità, ma senza mai necessariamente tenere poi titoli in portafoglio. Ma io penso che, partendo di nuovo dalla liquidità, il vero punto sia la fiducia anche per quanto riguarda i titoli di Stato. Quindi se noi riusciamo a far risalire la fiducia investendo nell'economia reale, probabilmente anche lo Stato avrà meno problemi a collocare i propri titoli. Quindi è un po' un circolo virtuoso che spero si stia avviando. Certamente, ripeto, il compito delle banche è quello di sostenere i clienti e non comprare titoli. Senta, è ovvio che chi fa informazione deve essere responsabile in anni di crisi come questi, anche perché il meccanismo di fiducia negli intermediari finanziari è un po' l'architrave che fa andare avanti tutti i mercati. Dall'altra parte non bisogna neanche poi chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Le chiedo, fenomeni di bank crunch e di ritiro dei depositi, noi siamo sicuri davvero da questo punto di vista sono cominciati ed è meglio non dirlo, oppure non sono cominciati e quindi bisogna essere tutti responsabile e tenere la testa sul collo? Dal suo punto di vista le cose come stanno? No, se ricordiamo alcune scene che abbiamo visto negli anni passati in altri paesi, veramente di code dei clienti fuori dagli sportelli, in Italia siamo assolutamente tranquilli, non c'è un fenomeno di questo genere, i depositi sono tutto sommato stabili, c'è una certa competizione da parte dei titoli di Stato, oggi hanno dei rendimenti molto alti, quindi vediamo alcuni clienti che disinvestono da depositi, investono in titoli, però il sistema tiene bene e non abbiamo segnali di nervosismo, diciamo, da parte dei clienti oppure di clienti che hanno poca fiducia nel sistema Italia e mandano fuori i loro quattrini. Quindi sa cosa mi capita? Mi capitano clienti di un certo importanza che dicono: ma io ho capito come funziona questo meccanismo delle aste, cioè possono portare anche i miei mutui, una grande banca, una banca che partecipa alle aste, sì, può portare anche i miei mutui e prenderci soldi all'1% e poi magari li reimpiega in titoli pubblici che gliene garantiscono 6-7%, ma con i miei soldi, dice il cliente, ma io non vengo a compartecipare di uno schema di questo tipo? Questa è domanda che viene da un ascoltatore. Sì, diciamo il sistema tecnico che usa la banca centrale è di fare liquidità alle banche non solo se è collateralizzata, quindi se ci sono collaterale degli asset, esempio sono mutui o cose di questo genere, altri crediti. In realtà noi prendiamo sia liquidità a prezzi contenuti, ma la vera sfida oggi è questa, è erogare poi prestiti ai clienti, spero a tassi decrescenti, oggi siamo a un livello estremamente alto, credo che questa liquidità possa contribuire anche a abbassare gli spread, quindi poi la pensione beneficia tutti quanti. Ricordando il dottor Ghizzoni, avrei due domande flash, la prima è se la questione della liquidità e il problema della liquidità ha portato anche nei giorni scorsi, come anche qualcuno vocifera, ma non è che vogliamo spargere il panico, alla impossibilità anche da parte di alcune grandi banche di rifornire gli sportelli bancomat, che è uno scenario certo non bello e neanche vogliamo evocarlo, però le chiedo se davvero questo rischio c'è stato o c'è. Sono sicuro che non sono a corrente di qualcosa del genere. La seconda domanda è se preoccupa la questione dell'agenzia di rating Fitch, che ieri, per quel che riguarda Unicredit, come altre banche sono ovviamente sotto osservazione, ha abbassato il rating da A a meno. Anche qua abbiamo ormai da settimane, se non da mesi, un continuo riduzione dei rating. Ieri leggevo che in discussione adesso anche il rating della Banca Europea degli Investimenti, quindi non sono preoccupato, è un trend che riguarda tutti i paesi, un po' tutti gli operatori nel mercato, c'è un riassestamento in basso, possiamo discutere se è giusto o sbagliato, ma come abbiamo visto ieri a fronte dell'abbassamento del rating nostro, il titolo è salito del 6%, quindi non c'è più diretta connessione tra le due cose, credo. Quando, come in questi anni, il margine di intermediazione scende perché bisogna raccogliere capitale, si hanno difficoltà nella provvista di capitale nel mercato all'ingrosso, eccetera, eccetera, non sarebbe il caso, vado controcorrente, di rivedere anche un po' come abbiamo fatto i grandi consolidamenti bancari, tenendo il più possibile tutti i perimetri con le piante organiche, eccetera? Molti dicono, chiedi a Ghezzoni delle migliaia di persone che sbattono fuori. Io la vedo da un punto di vista un po' diverso, perché noi abbiamo fatto un consolidamento bancario tenendo di tenere tutti dentro, però poi la componente costo del lavoro, quando il margine di intermediazione scende, ragazzi, inizia a pesare sui bilanci. Adesso io lo so, non voglio fare il banchiere io, però mi metto una parte del manager. In realtà le cose come stanno? Siamo arrivati a un punto di smaltimento, lo so che è un termine brutto parlando dei dipendenti così, che è accettabile, o in realtà siamo ancora lontani e alla fine avremo altre migliaia di esuberi? Beh, che qua è difficile giudicare, direi che per banche come le banche italiane, cioè banche che sono banche commerciali, quindi hanno come margine di intermediazione proprio depositi e impieghi, nessun'altra attività speculativa, eccetera, mantenere il margine è sempre più difficile, quindi occorre lavorare molto sui costi e sulla riorganizzazione anche delle banche. Personalmente, guardando quello che succede a Unicredit, abbiamo sì un piano di esuberi che peraltro riguarda, come nel passato, dipendenti che in qualche modo hanno già maturato il diritto di pensione, non l'età ma il diritto, quindi lo stiamo gestendo in maniera soft. In altri paesi è molto più duro e molto più impegnativo. No, noi come Unicredit quello che vogliamo fare è andare in controtendenza, cioè cercare di capire se riusciamo a riattivare una crescita del gruppo in Italia, in modo da limitare il minimo indispensabile gli impatti occupazionali. Siamo anche impegnati ad assumere giovani, perché anche questo è molto importante sia per l'azienda che per il contesto sociale, però indubbiamente è una profonda trasformazione delle banche dal punto di vista organizzativo per renderle più semplici, più snelle, meno costose e indispensabili. Senta, alcuni hanno il timore che, siccome siete la banca con più asset internazionali, siete quella più internazionalizzata, siete presenti in Centro Europa, siete presenti in paesi come il Kazakistan, l'Ucraina, siete presenti in Turchia, che è un paese a tassi di fortissima crescita, alcuni temevano che, e temono ancora, che con l'andamento di caduta del rischio paese incorporato, dall'estero concorrenti, diciamo, che non hanno lo stesso rischio paese incorporato, a un certo punto dicano, vabbè, Unicredit oramai vale così poco che ci prendiamo qualche suo asset, avrà bisogno di vendere e ce lo portiamo a casa a prezzi di realizzo. Magari qualche tedesco di quelli che hanno rifiutato anni fa di ripulire gli asset che Unicredit invece ha ripulito proprio in Germania nell'immobiliare. Questo rischio esiste o è infondato secondo lei? Essere soggetti a questo rischio per certi aspetti mi fa anche piacere, nel senso che vuol dire che gli asset che abbiamo sono asset importanti e di valore. No, diciamo, il gruppo adesso parte con l'aumento di capitale, diventerà una delle banche meglio capitalizzate in Europa, che vuol dire una delle banche più solide in Europa, per cui come noi subiamo il rischio di queste cose possiamo anche fare la partita opposta, nel senso che diventiamo una banca anche in grado di guardare ad asset interessanti in giro per l'Europa. Quindi è parte del libero mercato, bisogna creare valore, bisogna fare crescere la banca, la redditività della banca, e sei protetto da questi potenziali assalti. Però l'importante è avere un gruppo solido ed asset appunto importanti di valore. Paesi come la Turchia, la Russia, la Polonia sono paesi che fanno gol a tutti, non ce li abbiamo e li teniamo stretti. Senta, abbiamo avuto il dottor Befera che ci diceva ci metteremo d'accordo con le banche, ma insomma che ci diano tutte le movimentazioni, bisognerà rafforzare molto il livello di cooperazione bancaria, perché abbiamo analizzato il punto che alcune banche italiane che hanno branch all'estero, banche di investimento, clientela Wells, insomma la clientela che dà più risorse bancarie del proprio reddito disponibile alle banche, dice magari bisogna stare attenti che poi non ci siano delle nicchie tutelate. Allora, questa roba le banche la faranno con le nuove norme, naturalmente vi costerà anche, e quindi la preoccupazione dei nostri ascoltatori è, insomma, la paghiamo noi tutto questo rafforzamento di trasferimento di dati che le banche faranno all'amministrazione tributaria, è un po' così o no? Beh, certamente, se guardo anche il piano di investimenti del 2012, direi che il 70% degli investimenti in tecnologie vanno proprio per progetti che sono in qualche modo progetti che servono anche per aumentare la cooperazione con le istituzioni in generale, quindi costi ce ne sono. D'altro canto, come sempre, si cercherà di lavorare molto sull'efficienza interna per limitare al minimo i costi sulla clientela. È un equilibrio non facile da raggiungere, noi sappiamo che se la clientela è troppo, lasciatemi dire, tartassata, è insoddisfatta e quindi lavora meno, noi dobbiamo chiudere i nostri bilanci in positivo, quindi di nuovo sforzo massimo dal punto di vista riorganizzativo, ma qualche impatto sicuramente c'è. Cioè, è inevitabile che i clienti pagheranno qualcosa, ci stai dicendo? Temo di sì, ma... Ripeto, non è nel nostro interesse farlo, cercheremo di... È un ulteriore onere che lo Stato impone a tutti, mettiamola così, poi se può credere che sia un onere di trasparenza oppure no, ecco questo è il punto di fondo. Senta, l'ultima cosa, molti ascoltatori ci dicono, sì però alla fine quando noi vediamo come vengono trattati i grandi clienti dalle grandi banche, qui tutti citano Fonsai, Ligresti e così via, e noi poveri clienti a cui ci dicono no grazie chiedendoci garanzie reali, resta il vecchio criterio per cui insieme al bancario italiano ci sono gli amici degli amici. Allora, questa è una cosa sulla quale io capisco, non le sto chiedendo giudizi particolari, però forse un pochino è fondata ancora la cosa che nel vecchio mondo asfittico del capitalismo italiano, nelle grandi banche che facevano parte recinto delle ex BIN pubbliche, vengono guardati con occhi diversi. Oppure poi alla fine bisogna anche spiegare alla gente che ci sono dei gruppi che vanno salvati a prescindere per quello che significano. Come stanno le cose in realtà? Beh, ci sono dei dilemmi da sciogliere su gruppi, sono gruppi che indubbiamente hanno una gestione oggi discutibile, ma che sono anche asset importanti per il Paese, quindi noi dobbiamo fare in modo che questi gruppi si rinnovino e trovino la loro strada sicuramente più indipendente e più attenente, diciamo, più e meno vincolata a certi schemi del passato. Per quanto riguarda in generale la situazione, credo che in Italia le banche debbano soprattutto cercare di far crescere nuove aziende, è uno sforzo che noi stiamo facendo, occorrono campioni nazionali più grandi e in misura maggiore rispetto ad oggi e questo sicuramente stimolerà la libera concorrenza e maggiore trasparenza del mercato. Quindi bisogna avere meno, lasciatemi dire scherzando, meno soliti noti, ecco. Crearne di nuovi. Ecco. Va bene, noi allora ringraziamo Ghizzoni, Alessandro. Grazie per essere stato con noi, l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni. Oscar, qui ci sono, diamo magari lo spazio a un paio di ascoltatori che certamente, ci dicono la loro. Certamente. Qua parliamo di crisi a 360 gradi, abbiamo parlato col direttore dell'Agenzia delle Entrate. Io devo dire che di tutta la stampa internazionale la cosa che mi ha colpito di più, che volevo aggiungere, è stata questa, giustamente Frankfurter Allgemeine sottolinea che ieri nessuno si aspettava che l'indice IFO, che è uno degli indici dei classici delle aspettative dell'andamento dell'economia tedesca attesa, è salito, era 106,6, stava scendendo da due mesi, è salito a 107,2, insieme all'asta spagnola che ieri ha incorporato una diminuzione dei rendimenti molto consistente, perché lì Mariano Rajoy non ha solo vinto le elezioni da moderato, ma ha tagliato le spese, non ha alzato le tasse. Oh, ed ecco che gli spread scendono, no, ma certo, ma mentre da noi stamattina erano 468-469 punti, ma perché, come ha detto Ghizzoni, siamo tartassati. Rajoy in Spagna, vedi come lo pronuncio, Rajoy ha fatto una manovra. Ma la verità è che lì ci sono dei moderati che vincono le elezioni perché le spese le tagliano, non è che promettono per 17 anni di tagliarle e poi le aumentano come aumentano le tasse. Quindi ha detto centrodestra che... italiano, se ci sei rifondati, perché altrimenti nasconditi, questa è la mia... Ha detto Oscar Giannino per ora che gli Stati Uniti sono un grande paese, la Spagna... Ma che lo devo rifondare io il centrodestra italiano tagliando davvero le spese? Sentiamo due ascoltatori. Ho letto Caldoro prima che dice, il Corriere Napoli, Caldoro chiede 5.000 assunzioni in Campania dicendo le nostre piante organiche che sono troppo sottodimensionate. Chiedo a chi è in ascolto, ma possiamo davvero credere che in Campania le piante organiche sono sottodimensionate? Si lamenta perché è sottoposto a un vincolo coatto per il rientro del debito sanitario, esplosivo tra l'altro, e dice devo assumere altre 5.000 persone. Ma e lui è un moderato eletto alla centrodestra, capite? Fosse eletto alla centrosinistra, quanti ce ne assume? 50.000? Ma via centrodestra italiano, su, vergognati. Gabriele da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Miro e buongiorno dottor Giannino. Senta, io sono un imprenditore appunto da Padova, un'azienda un po' più grande di 300 dipendenti, no? Esportiamo un po' in tutto il mondo, ringraziando Dio, con discreto successo. Ora io mi pongo un problema, prenderò sicuramente dal talebano, del provocatore, però sono un imprenditore che opera da 35 anni in questo paese e vorrebbe restarci. Ora io penso che sia comprensibile, nonostante ciò quello che dice Befera, che un imprenditore, se è motivato, se guadagna, crea ricchezza e crea posti di lavoro e crea condizioni di economia virtuosa. Con 65% di tasse che paghiamo, questo, mi consentite, non è possibile. La mia provocazione infine qual è? Io dico, il guadagno di noi imprenditori dovrebbe essere detassato al 100%. Noi che creiamo ricchezza vera, che creiamo posti di lavoro, non dovremmo pagare neanche una tassa. Lei pensa, addirittura, tutti i nostri mezzi... È una bella provocazione, cioè neanche una tassa. Che rimangono in Italia, scusi, ma che creano ricchezza, che creano lavoro. Sì, ho capito, Gabriele. Gabriele, questi sono gli ascoltatori veri. Ma va bene, ma va bene la provocazione. Ma va bene la provocazione, Gabriele, stia con noi. Però io dico, di Gabriele, scusa, se io reinvesto tutto in azienda per stare in Italia, non mi tassi quello. Quello, ah, ecco. Questo sta dicendo, però in Italia è un investimento, non è che sta dicendo me lo metto in tasca io per spenderlo fuori. No, certo, no. Allora, Gabriele, lei sta dicendo questo. Lei vuole la detassazione totale del capitale che reinveste per creare ricchezza. Porti pazienza, noi imprenditori che lavoriamo 40 ore al giorno in azienda, vogliamo guadagnare e vogliamo essere riconoscibili. Gli imprenditori esteri, come facciamo a chiamarli in Italia? Dobbiamo rendere le condizioni che qui guadagnano e possono spendersi i soldi senza avere la Gestapo alle calcagna. Questo è il problema. La ricchezza deve rimanere qui, non dobbiamo portarla fuori. Sì, ma la Gestapo sarebbe Equitalia? Traduco io. Veda lei. Questo lo dice Milan, non l'ha detto. L'ha detto Gabriele. Difendo Gabriele. Ma no, vabbè, tutta la vita difendo Gabriele, quelli come lui. Mi rendo conto che posso passare da terrorista. Non si preoccupi, la difendo. A pensare, se tutta la ricchezza che produciamo rimane qui e viene investita in attività, perché guardi che noi la giochiamo in casino. Ha ragione, e quando ci sarà un governo, visto che il centrodestra non c'è arrivato, che capisce che bisogna abbattere le aliquote sul reddito d'impresa, come sul lavoro dipendente, e su questo cambiare l'impostazione del sistema tributario, lì difendiamo la nostra capacità produttiva e diamo risorse per innovare e creare posti di lavoro. Spieghiamo alla gente che bisogna lavorare di più, la detassazione al 100% che è buttata così. La detassazione al 100%. Te dice degli utili reinvestiti. Ma no, del reddito d'impresa, questo ha detto Gabriele, perché il reddito d'impresa serve agli investimenti. Qui ci sono 30 punti in più rispetto alla tassazione media sul reddito lordo d'impresa tedesco. È chiaro che crescere così rende tutto il dibattito su facciamo il mercato del lavoro con i diritti per tutti ridicolo, se ci dimentichiamo. Comunque, che la Gestapo sull'impresa è qui Italia. Non ha detto la Gestapo, vabbè, non l'ha detto Gabriele, vabbè, l'ho detto, la difendo, io l'ha detto Milan, dice la Gestapo, vabbè. Milan, no, noi non lo abbiamo detto. Questo è il metodo. Non fare il pubblico ministero. Il pubblico ministero mettono in bocca agli imputati quello che gli imputati non hanno ammesso. E tu l'hai messo in bocca a me, io a Gabriele. Gabriele l'ho parzialmente ammesso. No, detto, veda lei. Ma ti credo che tu sei conduttore, hai la forza di far dire agli ascoltatori. Conduttore è pubblico ministero. Certo, io tento invece. E giudice. Chiaro, in Italia coincidono come è noto, mentre io sarei per una terzietà un po' più forte. Mannaggia, no, non apriamo questa parentesi. Anzi, andiamo in pubblicità, Oscar. Andiamo in pubblicità e diciamo vergogna a Caldoro che vuole assumere altre 5.000 persone. Io non l'ho letto, ma se l'ha detto è vergogna, sì, certo. No, soprattutto è vergogna, non voglio fare il moralista. Dico che forse i problemi di Napoli sono altri, ecco, che 5.000 nuovi assunti. Gli speciali di Radio 24. Oscar, mi hanno sotterrato di messaggi. Il trionfo di Oscar, d'altronde sono nella tua non ora. Non è vero, ma non è la mia ora, non esiste la mia ora. Io sono un pro tempore. Sei un garantito. Sono come il giapponese nella foresta. Io sono un precario, ad nutum si può cacciare, figuriamoci. Cosa c'è? In arrivo la risposta di Caldoro immediatamente? No, purtroppo no. Ci portano la notizia. Ecco qua, abbiamo chiesto al governo concorsi per 5.000. Il governatore della Campania, siamo troppo sotto organico e questo non consente un risparmio. Invece assumere 5.000 persone per Caldoro è un risparmio, come va bene. E allora io voglio, perché magari qualcuno non si è svegliato alle 7:20. Finisco questa dichiarazione perché l'idea in che mani siamo. Governatore della Campania. È un costo non avere le 5.000 persone che lui vuole assumere, perché ci spiega il governatore della Campania, se manca personale viene a crearsi un sovraccarico di lavoro. Capisci? E quindi paghi gli straordinari. Lavorano troppo a Napoli, questo è quello che ci vuole dire nell'amministrazione pubblica il governatore della Campania. Visto che tu rilanci questo, io posso rilanciare questa, perché io sui giornali l'ho trovata incredibile che i giornali abbiano dedicato poco spazio. Ma, e l'abbiamo letto in rassegna stampa, magari al ristorante vuoto del Senato. No. La liquidazione per Franco Nicoli Cristiani, ex vicepresidente, credo, del Consiglio regionale Lombardo, arrestato per accuse tutte da dimostrare di tangenti. Siccome si è dimesso dal Consiglio regionale, avrà una liquidazione, trattamento di fine mandato di 340.000 euro e una pensione, un vitalizio da consigliere regionale di 5.000 euro al mese a partire da gennaio. Le accuse per lui sono di tangenti. Non viola le norme, bisognerebbe cambiare le norme. Sì, cambiamola sta norma. Però non è che bisogna cambiarla, nel senso che io sono dell'idea, per sanzionare i politici una volta condannati, che ne rispondano anche con la diminuzione. Bene, allora aspettiamo la condanna tra 15 anni, poi gli andiamo a richiedere la liquidazione e il pensione. Attenzione, io sono per norme di responsabilità di questo tipo, nel senso che il politico deve sapere che può essere chiamato, se per condannato per reati contro la pubblica amministrazione, esattamente a ridare soldi che preso. E ridarle, fin ma tra 15 anni. Fin dall'inizio devi fare, non lo so, questo non so cosa dire. Tra non possiamo però, no, uno becca l'avviso di garanzia e si dimette di fronte all'avviso d'accordo di garanzia, sospendergli le cose. Diciamo che la notizia ma vedi che sei giustizialista nell'anima. No, ma non sono giustizialista, stona un po'. Ma tu il pubblico ministero devi farci poco. Stona. A te non dà fastidio. No, a me, sono obbligato a dirti che io sono perché i politici rispondano anche con il proprio patrimonio e che queste norme si facciano sin dall'inizio. Cioè, il politico deve sapere fin dall'inizio che una volta che anch'io si becca una condanna contro la pubblica amministrazione, gli mettiamo le mani nei soldi, perché i soldi glieli abbiamo dati noi contribuenti. E questo sarebbe d'accordo anch'io che questo deve avvenire una volta che c'è il terzo grado di giudizio. Ecco, forse una liquidazione da 340.000 euro per rientrare nella vita privata dopo aver fatto politica, questa è una vera vergogna. È una vergogna ciò che viola una legge, è una vergogna, altrimenti entriamo nel moralismo ed è un po' scivoloso. Va bene. Tanto fammi dire che l'ex sindaco della mia città, attualmente Fassino, ma comunque Chiamparino, oggi una bella intervista Riformista, dice che l'articolo 18 è solo un simbolo politico. Credo che Chiamparino dica una grande verità da questo punto intanto di vista. Intanto, Oscar, visto che in questo secondo giorno di speciale vogliamo allargare anche un po' i nostri orizzonti per vedere questa crisi da vari punti di vista del mondo. E comunque la borsa di Milano sta andando bene, sale con un credito Intesa che stanno tirando su, è stato anche piccolo merito l'intervista a Ghizzoni che abbiamo fatto prima. Certo, è chiaro, abbiamo tirato sulla borsa. Era autoironia per chi non lo capisse, naturalmente. Bisogna sempre specificare, se no qua ci insultano. Serve di Confindustria, serve. Io non sono dipendente, io lo dico sempre, mi possono cacciare già 3-4 volte, siamo stato lì. Che volete da me? Io non sono dipendente, non gravo sul bilancio di Confindustria come dipendente, sono un povero collaboratore pro tempore e mi tengono finché poi. Allora, povero collaboratore pro tempore. No, povero, perché tutto quello che purtroppo faccio tanti salutiamo altri mestieri. Salutiamo i nostri due ospiti, e Oscar, Befera, e insomma, mi piglia tutto, come dice. Allora, siccome io non in questo momento non gli ospiti li devi salutare. Vabbè, tu. Saluto Roberto Darin. Roberto Darin, buongiorno. Abbiamo Gianni e Pinotto oggi. Darin, buongiorno. Buongiorno a voi. C'è buongiorno il corrispondente del Sole 24 Ore per il Sud America, ci racconterà qualcosa dell'Argentina, questo scenario che non vogliamo neanche evocare. Ma no, ma dobbiamo invece evocare, perché molti italiani sono convinti, sbagliando secondo me, che in realtà tornare alla lira sarebbe una cosa del tutto agevole, così si torna a fare un bel po' di svalutazione. La lira, qualcosa. Così c'è contro questi cattivoni tedeschi, come sempre, questa è la propaganda italiana, che c'è il quarto Reich finanziario e Angela Merkel, una specie di Himmler in gonnella. Invece, dopo la Gestapo, ebbene chiedere a qualcuno che segue professionalmente e ha visto come sono andate le cose in Argentina, che ci ricordi cosa è successo quando lì saltò il peg firso col dollaro, le politiche del ministro Cavallo, e se sia poi così vero che chi stava peggio in Argentina se la sia passata meglio quando salta, e significa che a quel punto si fa una svalutazione del 30-40%. Glielo chiediamo tra un attimo. Saluto intanto anche Alberto Forchielli, che è un imprenditore, fondatore e presidente di Osservatorio Asia, dunque la Cina ma non solo. Buongiorno Forchielli. Buongiorno, grazie. E allora, Oscar, da cosa iniziamo? Dallo scenario argentino che... No, iniziamo un secondo a descrivere che cosa avvenne in Argentina, perché così forse qualche italiano lo capisce meglio. Darin. Eccoci, 10 anni fa di questi giorni ci furono scontri di piazza con una quarantina di morti e una vera e propria insurrezione, non solo delle classi popolari ma anche delle classi medie e medio-alte. Una crisi drammatica senza precedenti, forse la recessione più pesante degli ultimi 100 anni, che ha diverse sfaccettature. Si è trattato di una crisi politica, una crisi finanziaria, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi istituzionale. Purtroppo intravedo alcuni un comune denominatore con la situazione italiana. Il peso argentino, va ricordato, era ancorato al dollaro, quindi c'era una politica monetaria a sovranità limitata, però era stata conseguita una buona stabilità macro-finanziaria, quindi non c'era inflazione, per esempio. Questo aveva fatto credere che la ricetta fosse giusta e fosse lecito procedere con queste indicazioni che provenivano sostanzialmente da Washington, dal Fondo Monetario Internazionale. La crisi però negli ultimi anni, dal 1998 al 2001, si è inasprita sempre di più fino al grande crack. Proprio 10 anni fa l'Argentina è caduta in default, ovvero cessazione di pagamenti. Sono state giornate drammatiche in cui è stato messo a nudo un modello economico e al tempo stesso gli argentini hanno pagato in prima persona lo sganciamento dalla parità fissa con il dollaro, che in quel momento era necessaria perché era insostenibile il modello economico di quel momento, ma che ha avuto dei costi altissimi per la popolazione. Chi aveva, per parlarci chiaro e arrivare subito alle cose importanti, c'è stato un blocco dei depositi bancari. Il che vuol dire che si andava a ritirare i soldi o a chiedere i soldi e la banca diceva no. La banca diceva di no, che non te li dava. Quindi si chiamava corralito, ovvero un vero... il corral in spagnolo è un recinto all'interno del quale stanno gli animali. Ora, il corralito prevedeva l'impossibilità di ritirare i propri soldi, ecco, dalle banche. Questo ha significato naturalmente una crisi drammatica per tutti. Io ricordo manifestazioni di piazza in cui scendevano le signore con la BMW. Esatto, no, perché bisogna spiegare a casa che nel caso in cui dovesse avvenire un euro breakup, una rottura dell'euro, e noi tra i paesi meno virtuosi, stante la quantità di debito pubblico che abbiamo da rifinanziare l'anno prossimo, continuassimo a essere il detonatore di questa crisi, la crisi avvenisse, inevitabilmente, visto che il sistema bancario di intermediari finanziari è interrelato, è globalizzato, bisognerebbe immaginare che nei giorni immediatamente successivi, è caso che una cosa di questo tipo si fa a mercati chiusi per evitare il disastro che inevitabilmente poi avverrebbe dopo sugli asset quotati, ma in quei giorni dovrebbero essere assunte delle misure straordinarie, emergenziali e temporanee, proprio per tentare di isolare il sistema degli intermediari finanziari italiani rispetto a quelli del resto dei paesi virtuosi e del resto del mondo. Questo implicherebbe per le banche italiane misure come il corralito, perché a quel punto le banche italiane, che si troverebbero ad essere temporaneamente molto vincolate nel regime di libertà dei capitali e operazioni finanziarie internazionali, perché ovviamente avrebbero dei collaterali molto svalutati in Italia, perché tutto si svaluterebbe nella nuova valuta o nella vecchia, la lira, e non più nell'euro, questo implicherebbe che la loro agibilità di liquidità sarebbe ancora più corta rispetto a quanto sia corta oggi, e quindi voi vi sognereste di andare a ritirare i soldi. E questo che volete, cari nostalgici della lira? Ed è solo uno dei tanti esempi. Avete sentito da Roberto Darin, in altre parole, che non c'è molto da guadagnarci. Forchielli, posso fare una domanda? Lei è a cavallo tra finanza, impresa e soprattutto da anni è già focalizzato sull'Asia. Questa frenata che è in corso in Cina, frenata che si vede nei prezzi immobiliari e in un raffreddamento anche degli apprezzamenti delle retribuzioni, che nelle aree a maggior crescita e insediamento industriale e aperte anche più all'Occidente si è visto in questi ultimi mesi, la preoccupa o meno? Perché alcuni dicono, se qui va in crisi anche la Cina l'anno prossimo, cioè diciamo, sale a un tasso inferiore al 6% invece che verso l'8-9%, entriamo in un 2012 potenzialmente esplosivo aggiunto all'euro. Le cose dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, come stanno? La frenata c'è, ma non mi preoccupa questa frenata, sono altre cose che mi preoccupano. Questa frenata comunque fa scendere la crescita all'8,5%. È stata fatta perché il valore delle case stava andando Era una bolla vera, insomma. Sì, hai capito, dovevano bloccare questa bolla perché la gente non riusciva più a comprarsi una casa e adesso la devono raffreddare. Però la crescita continua, 8,5 più che dignitosa, capitolo chiuso. Mi preoccupa invece nel medio termine un'economia eccessivamente orientata all'investimento, con un 50% di investimento sul PIL, dove costruiscono ormai ponti che non servono, palazzetti dello sport che non servono, fabbriche che non servono, e prima o poi questo eccesso di investimento sul consumo arriverà a capolinea. E il problema ma è che naturalmente è questa la crisi, sì, la crisi che vedo io è una crisi al medio, non questa. Beh, ma certamente in realtà la velocità di trasformazione di un'economia tutta basata su export e naturalmente in cui ogni componente dell'economia, compreso il settore pubblico, è generatore di eccessi di risparmio e quindi che vanno verso gli investimenti, trasferirla tutta in maggiore consumi interni a sostegno della crescita è una traslazione insomma non molto facile da questo punto di vista, anche perché implica poi una sostenibilità del sistema bancario e asset del sistema bancario che siano veramente puliti, e io su questo c'ho un grande punto interrogativo su cosa ci riserva la Cina da questo punto di vista. Senta, una domanda, molti piccoli imprenditori italiani che hanno ancora il dubbio che si entri in Cina solo attraverso joint ventures in cui si è minoritari e quindi il problema è che o c'è qualcuno che ti seleziona un partner che è maggioritario e poi vai a quel punto a rischio che ti cambiano le regole e così via eccetera. Da questo punto di vista invece la Cina, vogliamo spiegarlo, si è aperta anche alla possibilità che uno possa andare lì, comprarsi la sua area immobiliare se vuole fare produzione o cose commerciali senza essere in joint venture e senza essere soggetto a partnership invadenti, oppure no? Le joint venture sono morte e lei è 5 anni in ritardo con questa domanda. Ormai. No, ma il problema è che molti continuano a non saperlo in Italia. Questo è proprio questo. Capito, io lo dico a chi posso e adesso mi date l'opportunità di dirlo attraverso Radio 24. Ma le joint venture sono state un capitolo vecchio, chiuso, disastroso. E chi ha successo lo fa al 100% e via, facendo lo sforzo e via. Non consiglierei mai più a nessuno di fare una joint venture. Esattamente. E possiamo fare un'altra osservazione breve? La sua impressione su come sistema Italia, se uno somma le missioni nazionali, l'ICE che sta messo come messo, da mesi a questa parte non si riesce a capire che fine deve fare con più di 2/3 dei suoi dipendenti in Italia, il sistema camerale, gli aiuti eccetera eccetera. In realtà molti dicono sì, ma nessuna di queste cose ci è decisiva per capire bene come andare lì, cosa fare là. Qual è la via più efficace secondo lei per una piccola impresa italiana che fino a questo momento ancora colpevolmente ha trascurato l'ipotesi di andare a vedere che cosa può fare per un mercato con centinaia e centinaia di milioni di nuovi consumatori affluenti? Bisogna andare là, rimboccarsi le maniche e fare dei sacrifici. Non si va là da lunedì a venerdì, si va là per un mese o due mesi, ci si sta, si viaggia e non si pensa che lo Stato debba supplire a tutte le mancanze di conoscenza. Punto. La Cina deve piacere, se non ti piace e devi tornare il sabato o domenica a casa a vedere la partita e mangiare i tortellini, lascia perdere. Bravo. Okay. Però è una vita di sacrifici, cerca di fartela piacere, se no lascia perdere. ICI, Camera di Commercio, Ambasciata, sono pochi, sono eroici, fanno quello che possono, sono sottodimensionati, non hanno fondi. È la vecchia storia italiana, però sono anche eroici. Io sono stufo di sparare addosso a questa gente che lavora anche 12-14 ore al giorno. Il problema è che i tedeschi hanno delle strutture di centinaia di persone, noi ne abbiamo se non una decina. Poche decine. Però, gli imprenditori non possono fare anche loro gli assistenzialisti, aspettare, capito, che la Camera di Commercio ti bravo dica Forchielli che possa prendere queste cose qui. Andiamo su, bravo, bravo Forchielli, questo è lo spirito con cui credo più. Io ai miei colleghi cinesi dico: guardate, quando arrivano gli italiani, se al secondo giorno chiedono degli spaghetti, via, lasciate perdere, via. Capito? Se al secondo giorno non sto chiedendo degli spaghetti, mollate, capito? E non è, non è pregiudizio antropologico, non è che se chiedono i cappelletti va meglio, il problema è che se chiedono la pausa. Sono d'accordo con Forchielli, adesso abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Lavorare di più! Gli Gli speciali di Radio 24. Allora, l'ultima parte di questo Radio Day per quel che riguarda noi, poi continua la programmazione di Radio 24 dedicata alla crisi. Anche oggi sentiamo un paio di ascoltatori, caro Oscar. Fabio, dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Complimenti intanto per la trasmissione. Io volevo soltanto avere da voi, data la vostra acutezza di competenza di analisi, un giudizio su questa, una mia proposta barra provocazione. Perché non eliminare completamente il contante, e per cui anche le banconote? C'è Oscar Giannino che è già zannato alla sua giugulare, caro Fabio. Non azzanno nessuno, però vabbè, mi piace solo questo, Oscar, poi ti do la parola. Come Massimo Fini sul Fatto ha definito Milena Gabanelli, che è stata una delle prime giornaliste che ha proposto questa cosa, Milena Gabanelli e alcuni comeinisti quali lei. Non ho capito perché è della comeinista. Comunque Fabio, ora la parola a Oscar Giannino, che aguzza i denti e la denta la giugulare. Non ha detto assolutamente nessuno, ma è un manipolatore questo Sandro Milan. Dai. Perché mette nel senso che è una proposta che sale sulla mia codina da gattino. Però detto questo, con grande rispetto, capisco che il che bella cosa. Capisco, poi spiegheremo di che si tratta, ma capisco che molti ascoltatori, presi e convinti oramai da questa incessante campagna per cui il contante praticamente viene utilizzato solo da evasori, banditi, mafiosi e noti, prostitute che fanno la stracciata. Allora, il denaro è uno strumento, è un veicolo fiduciario accettato nel sistema dei pagamenti, perché colui che lo emette, cioè lo Stato, quello che ci stampa sopra ne risponde, per così dire. Allora, questa roba per cui la moneta è diventato non uno strumento fiduciario ma uno strumento sfiduciario esprime, e questo mi piace, sfiducia nei confronti degli stati che l'hanno battuta. Detto questo, c'è la libertà nel sistema dei pagamenti da parte dell'operatore su quale è lo strumento, se fisico o virtuale o elettronico. Abolirla come chiedono tutti, per me è una rinuncia. Tassare il contante. La tassa sulla sfiducia che lo Stato esprime così tanto in se stesso e su quello che stampiglia, da dire non fidarti di me perché sennò ti chiedo ancora più soldi. Ragazzi, è una questione di libertà, ed è una questione di libertà nel sistema di pagamenti. Dopodiché, se voi siete convinti che lo Stato migliore è quello che così merita così poca fiducia da non potervi dare nessuno strumento per pagare, allora si va al free banking. Nella mia cultura si dice: bene, allora aboliamo le banche centrali e ci organizziamo piattaforme autonome. Questo è quello che dice la mia cultura iperliberista. Il retropensiero che sta, cioè, la mia risposta è: io nello Stato totalitario, che mi dice, visto che non è capace di fare una seria lotta all'evasione, tasso, che ha così sfiducia e tasso il contante, lo evito così tutto è trasparente, dico, mi organizzo con piattaforme autonome in altri pezzi dell'ordinamento mondiale ci sono stati che non ragionano così, cioè me ne vado. Sempre meglio di Massimo Fini, che dice uno tanti stato altri che fa, se ne vanno. Uno Stato che fa così dice abbattiamolo. Massimo Fini, Massimo Fini, non l'ho detto io come la Gestapo. Massimo. Ci sono due meccanismi nelle forme democratiche assembleari: uno è la voice, che arriva fino ad abbattere, l'altro è l'exit, andarsene. Sentiamo Andrea da Roma, buongiorno Andrea. Salve Giannino e Milan, vi ascolto spesso, insomma, vi stimo. Una domanda, anche se non sono addetto ai lavori, però insomma due conti li so fare perché sono fisico. Ora, a me mi sembra che con queste manovre che si stanno facendo, recessive, sicuri l'effetto ma non la causa. Perché non si torna a parlare della separazione di banche d'affari e delle banche di credito? Perché diciamo questi tassi così bassi poi di fatto non si riflettono in denaro che arriva alla famiglia, che arriva all'impresa, alle imprese per gli investimenti. Di fatto è come se dessimo munizioni a chi ci vuole sparare, perché di fatto questi soldi vengono impiegati nelle banche d'affari per fare loro. Quindi lei non crede, quando Ghizzoni ci diceva all'inizio, vengono utilizzate per le imprese, un attimo, quali sono stati i fatturati da Goldman Sachs o di insomma Andrea, Andrea, guardi, le do una risposta brevissima perché questo con lei solo è un tema grandioso. È ovvio che non Andrea da Roma, ma Paul Volcker, cioè uno dei più affidabili e serissimi ex banchieri centrali, uno di quelli che non ha dato retta alla politica e ha domato l'inflazione e ripristinato la fiducia nel dollaro negli anni in cui era la guida della politica monetaria americana, Paul Volcker, dopo la crisi del 2008, ha esattamente proposto quello che ci dice Andrea, cioè noi dobbiamo fare una grande, universale dichiarazione di presa di responsabilità, l'unificazione dell'intermediazione finanziaria e bancaria a breve termine, quella classica delle banche commerciali, con quella a medio-lungo termine, quella delle banche di investimento, tenendo uguali le riserve di vigilanza e dimenticando che naturalmente prendere denaro e impiegarlo a lungo ha dei rischi maggiori rispetto che farlo nel breve e ha diverse garanzie, questo è stato l'errore di fondo attraverso il quale si è moltiplicata la leva finanziaria. Lei ha ragione, peccato che una riforma di questo tipo significherebbe aver adottato nel G20 una cornice per la quale in tutto il mondo, visto che in tutto il mondo abbiamo seguito quel modello di unificazione, lo abbiamo fatto anche noi con la nostra riforma della legge bancaria all'inizio degli anni 90, quella del 36 era invece come in America ispirata alla separazione, bisognava che politici in tutto il mondo dicessero al Financial Stability Board guidato da Mario Draghi, dettateci di nuovi principi per cui noi attuiamo la separazione in tutto il mondo, altrimenti chi non la fa congiuntamente tra Europa, America e Asia si condanna a perdere flussi di migliaia di miliardi di dollari e di euro a vantaggio del terzo. Questa è la ragione per cui noi continueremo col modello di banca universale e continueremo a essere esposti esattamente ai rischi che dicevamo. Allora Oscar, noi siamo quasi in conclusione, io vorrei come al solito chiudere con un po' un sorriso sulle labbra, no? Sì. Oggi la stampa propone questa anche se pagina. La musichetta che sentiamo che è un richiamo ovviamente a una cosa che invece è un po' di end per così dire, però the end. E se avessero ragione i Maya, cioè noi ci stiamo scapicollando, no, ma la stampa ci ha fatto una pagina, sì, cioè so, se tra questo, un anno finisce il mondo noi ci stiamo scapicollando su che deve, tutto, ma ve ne rendete conto, se finisce il mondo nel 2012 mi sono appena chiesto, sposato, lavoro così tanto per capito, le tasse ma e la poi stampa, la stampa no. È andata da Fabio Volo, ma Laura no, Pausini, Roberto Bolle, Christian De Sica, Caterina Balivo, Francesco Renga a chiedere e se lei avesse un anno di tempo che farebbe? Roberto Bolle andrebbe a Međugorje e in Sud America. Laura Pausini starebbe tutti i giorni sul palco. Tutti i giorni sul palco? Tutti i giorni sul palco. Ci stai tutti i giorni a vivere, tutti i giorni a lavorare. Ma è una Christian follia, De Sica questo. Farebbe finalmente il film Milan, su papà cosa farebbe mamma. Lei invece? Se, cosa farebbe? Beh, che ne so, io non lo so. Non lo so, c'è cioè una di quelle domande, ma ti sembra una risposta sensata? Starei tutti i giorni sul palco. Io devo dire la verità, se mi dicessero che ho pochi. Siccome in passato nella vita di avere dei periodi quando mi sono operato e sono stato molti mesi in ospedale e così via eccetera, la mia risposta è stata darmi da fare un po' di più per gli altri quanto facessi prima, ero obbligato in ospedale e quindi mi sono finalizzato, e poi leggere incessantemente, perché una delle cose che mi devasta di più è che io non riesco mai a leggere, a sapere tutto quello che vorrei, e in ospedale quando stavo attaccato ero abbastanza nell'incredulità generale, avevo pile e pile, avevo anche computer attaccate, e devo dire la verità, per me io nella mia povertà mirafiori le notti in cui traducevo le cose greche perché mi sentivo testa che espandeva, il tempo però è finito e quindi Alessandro Milan vabbè, salutiamo. Insomma, il tempo e non un anno è finito, manca un anno. Io leggerei come un pazzo. Grazie Oscar, domani ti vorrei in rassegna stampa, chissà. Chissà, vediamo, comunque grazie a voi. Tutti.